Inizieremo quest'oggi l'ultimo dei quattro incontri che Antologia ha voluto dedicare a uno dei massimi esponenti della etnomusicologia italiana, il professor Diego Carpitella, al quale auguro un buon pomeriggio. Grazie. Quindi, ultimo appuntamento nel quale tenteremo di esaminare o quantomeno di evidenziare alcuni dei momenti rilevanti e delle tematiche emergenti degli ultimi 20 anni di attività sul campo di Carpitella, anche laddove l'attività sul campo lasci posto, si affianchi a significative riflessioni sullo stato degli studi demologici in generale e sulle interferenze tra colto e popolare. In verità, anche la scorsa settimana ci siamo lasciati indagando quel fenomeno tipico degli anni 60-70 che comunemente va sotto la denominazione di folk revival. Ed è appunto dagli anni 70 che vorremmo riprendere quest'oggi il discorso. Gli anni 70 vedono Carpitella aprirsi a nuovi interessi che trovano concretizzazione in nuove, altrettanto nuove esperienze che potremmo sintetizzare in democinesica e etnomusicologia visiva. In entrambi i casi entra a far parte stabile del corredo dello studioso non solo il registratore, ma anche la macchina da presa. Ecco, professore, cerchiamo di capire il perché di questa estensione di campo di indagine. Ecco, vorrei dire che alla base c'è quello che sto dicendo, quasi una cosa ovvia, la curiosità. E la curiosità era che da molti anni, specialmente nella seconda metà degli anni 60, ero molto interessato a questo trattato scritto da questo abate De Iorio nella prima metà dell'Ottocento, nel 1832, che è l'unico dizionario europeo e italiano sulla gestualità, fatto da un sacerdote tardo illuminista, il quale annotò circa 300 segni e 300 gesti in una città come Napoli, che ha una sua fama per la gestualità. Vedremo poi però che è una fama così un po' esagerata, in realtà la gestualità c'è dappertutto con caratteristiche diverse. E allora avevo degli amici registi, qualcuno documentarista, al quale dissi: guarda, una volta bisognerebbe fare un documentario su questo, almeno su questo libro. Ma evidentemente non sono stato suadente, e all'inizio degli anni 70, 72, presentai io stesso un progetto all'Istituto Luce. Era allora amministratore delegato Ernesto Laura, e chiesi di fare questa cosa. Lo chiesi di fare in prima persona, sicché improvvisamente mi ritrovai con una troupe di 10 persone, una troupe professionale da girare questo documentario, che però non era più sul libro del Diorio, ma era in generale sulla cinesica a Napoli, sulla gestualità. E questo fu un fatto emozionante, perché mi sono trovato, mentre al Nagra mi sono trovato, non sempre, c'erano anche dei tecnici, mi ricordo, anche della radio, quando facevo la registrazione con il Nagra, non era ancora la disinvoltura con cui si usa il Nagra adesso, ma mi trovai dietro ad un Arriflex e una Bollier 16 mm, naturalmente mediata da un operatore. Io non sono né un cineamatore né un fotoamatore, ho usato questi strumenti e questi mezzi unicamente perché non si poteva fare diversamente. Per documentare il movimento, come fai? Immagini il movimento, fortunatamente un secolo e mezzo fa è stato inventato il cinema. Avevo avuto una sola esperienza, quando abbiamo parlato qui del tarantismo, avevo comprato una Paillard 16 mm, ho girato 20 minuti di film senza averla mai toccata, e poi me la sono subito rivenduta perché aveva avuto la sua funzione e quindi non sapevo che fare. Quindi come avviene questo approccio col mezzo, ecco, tecnico? L'approccio tecnico è avvenuto naturalmente mediato da tecnici. Ecco, quello che io ebbi subito la sensazione che doveva essere una troupe professionale. Mi riferisco a un operatore come Bonicelli, che ha avuto delle esperienze giovanissimo, ha avuto delle esperienze con Rossellini, e poi un nome molto noto del montaggio che è Perpignani. Non volevo fare un documentario, non era un documentario, era una ricerca cinematografica. Adesso non vorrei che questo fosse inteso come un sofisma intellettualistico. Cioè, invece di usare la penna, il registratore e altro, la macchina cinematografica. Quindi non esisteva la figura mediata del regista, era soltanto chi faceva la ricerca che gli stesso faceva la regia, nel senso di decidere le sequenze, le cose precise da prendere, ma poi la grande responsabilità notoriamente è l'operatore. E poi è molto importante il montatore. Sembra assurdo in un documentario, alcuni penseranno che questo sia dissacrante, come il montatore, il cinema realtà, il cinema contatto e via dicendo. No, il montatore in una ricerca, diciamo così, di carattere scientifico è importante perché ti rende il montaggio esattamente quello che tu gli chiedi. Se tu non gli chiedi, eventualmente puoi diventare anche vittima di un meccanismo cinematografico che è di routine. Ma se tu chiedi a soltanto un montatore molto bravo, professionale, sa realizzarti esattamente quello che vuoi. Mi ricordo sempre che un documentarista come Rusci dice: io quando torno il mio materiale lo do al montatore, lui è il giudice più severo di questo. Come poi da questa curiosità sulla gestualità, apparentemente sembra una così un delirio così ambiguo, ambivalente, ma in effetti come avendo una consuetudine, avevo ormai una consuetudine da circa 25 anni con la tradizione musicale, e naturalmente specialmente quando si facevano incisioni guardavo molto questi protagonisti di questa tradizione culturale. Ero affascinato dalle intese rapidissime del corpo, da qualcosa che diversificava subito noi e quest'altro mondo. Era un trattamento del corpo, una gestualità. Queste due ricerche che ho fatto a Napoli, partendo dal testo del De Orio, e poi in Sardegna, che è una gestualità completamente diversa da quella di Napoli, così come il sardo è diverso dal napoletano, e poi ci fu una supplementare ricerca in Sicilia, però non completata, rientravano più che gestualità, il titolo è stato cinesica, ecco, un tipo di ricerca che è cominciato negli Stati Uniti sistematicamente, soprattutto negli anni 40. Mi ricordo un libro interessante pubblicato negli anni 40 di Efron, Gesto, razza e cultura, dove studiava Efron negli Stati Uniti durante la guerra gli italiani e gli ebrei, la diversa gestualità che hanno questi due gruppi etnici rispetto alla media americana, e raccontava una cosa abbastanza indicativa, cioè che di ragazze italiane che quando erano andavano in fabbrica o erano così, avevano in società, ma di media classe, medio piccola classe, avevano una gestualità all'americana, e poi non appena erano nel privato oppure addirittura andavano dall'analista veniva fuori tutta la gestualità originaria, in questo caso siciliana. Quindi ecco, stiamo parlando di cinesica, di democinesica, proviamo quindi a darne una definizione per chiarire il campo di indagine che affrontiamo oggi in apertura di trasmissione. Sì, cinesica vuol dire proprio il linguaggio del corpo nella sua interezza. Ecco, i suoi vocaboli in qualche modo analizzati come fatti culturali. Sì, i vocaboli, infatti anche il titolo di queste ricerche si chiamava cinesica culturale, nel senso che erano l'aspetto naturale, spontaneo, è chiaro che è una componente, non può non essere una componente, però poi la determinazione e la differenza è di carattere culturale. Abbiamo citato nel corso delle nostre trasmissioni quella frase che aveva detto Benedetto Croce: da morti siamo tutti uguali, e De Martino disse sì, però ci sono morti e morti, sia per come piangere, sia così come anche si abbattono per terra quando muoiono. La figura di Ernesto De Martino continua sempre in qualche modo a essere presente in questi incontri con Diego Carpitella. Beh, questa era una delle cose quando diceva Jervis che ridevamo moltissimo, perché l'illuminismo veniva fuori dinanzi a questa gestualità che era abbastanza spettacolare per noi. Quanto viene modificato il dato cinesico mentre lo si osserva? Ma credo appunto che questo sia dato un problema che riguarda tutte le scienze sociali. Ecco, credo. Esatto. Il problema che si era posto con la macchina da ripresa, salvo la maggiore vistosità, naturalmente è il solito problema dell'osservato e dell'osservante. Io per esempio ho avuto sempre molti problemi con la macchina fotografica, proprio per questo non sono fotoamatore. E credo che le migliori fotografie le ho fatte con delle macchine del tipo Rolleiflex, per esempio, perché potevo non puntare direttamente, questo mi aveva sempre intimidito. con la macchina da ripresa ci sono diversi problemi e abbiamo usato, no? Perché bisogna, poi il termine si è commerciale, insomma molto, la candid camera, però non era una candid camera, certe volte era con l'obiettivo distorto e qualche volta anche con un tipo di candid camera, però questi materiali poi erano subito visti noi insieme alle persone che erano state riprese. Non era il colpo, ma era, non c'è dubbio che dinanzi ad una macchina da presa c'è un'alterazione. Allora, tutti lo sappiamo, prendilo così com'è che si altera, sì, ma la persona normalmente non è che vive con una macchina da ripresa davanti a sé, vive senza una macchina da ripresa, quindi tu devi cercarlo di trovarlo nella situazione più vicina, ma senza la trappola, l'ironia, la sorpresa del candid camera, non c'era questa psicologia. Guardi, le dico una cosa. Io sono molto grato naturalmente a voi tutti di avermi invitato a questa simpaticissima trasmissione. Purtroppo questo è un argomento che va visto, certo, non sentito, però mi ricordo ancora che in momenti di più di tensione rituale o anche per esempio il suonare, la gente può mettere una macchina davanti a loro, proprio a pochi centimetri dai loro occhi, non dicono assolutamente nulla perché sono talmente presi dall'evento, cioè più l'evento è in tensione più non ha importanza, ma la cosa più difficile è la ripresa della quotidianità, lì allora l'alterazione di un mezzo per rilevare il documento è molto più forte, ma d'altra parte questo è uno dei problemi più assurdi delle scienze umane e via dicendo oggi, compresa l'elettromusicologia, perché l'aumento di tecnologia sofisticata ti può far prendere cose che prima non potevi. A sua volta la scomparsa di alcune tradizioni è direttamente proporzionale allo sviluppo delle tecnologie sofisticate. È un conflitto. Per l'archeologia va bene, si fa un sondaggio, ma quando si tratta di persone, di uomini, è un po' più complicato. Però questa esperienza sulla cinesica, scegliendo Napoli, dove c'è una tradizione gestuale fortissima, e questo trattato del 1832 dell'abate di Iorio è veramente esemplare tuttora, non esiste un dizionario di questo tipo. In Sardegna è stato scelto, a parte perché io avevo questa esperienza di ricerca di musica in Sardegna, è stato scelto perché è completamente l'opposto. Certo. Come uno sente parlare in napoletano, direi che la gestualità accompagna l'arco della melodia di frase del dialetto napoletano, e così come il sardo, che è tutto in tensione, c'è una tensione del corpo, uno sterno sempre in tensione e i gomiti molto legati alle palle. Adesso esamineremo in particolare, anche se brevemente, i tre momenti fondamentali degli anni 70, quindi Napoli, la ricerca a Napoli, la ricerca in Barbagia, la ricerca in Sicilia. Questo non abbiamo parlato. Volevo tornare un momento a quanto diceva poc'anzi il professor Capitale. Ecco, il rapporto che c'è tra espressione pubblica può anche essere molto diversa dall'espressione privata. Sì. Mi viene in mente chiedere quello perché ricordo di aver letto in un suo articolo degli anni 70 che lei vide in un filmato girato in Nuova Guinea, in cui appunto in questo filmato si vedeva una madre in privato dinanzi al figlio morto. Ecco, questo episodio in qualche modo sconvolse le teorie sulla lamentazione funebre. Sì, perché era frutto di un rapporto di consuetudine che aveva avuto questo etnologo, che poi aveva con sé anche una macchina da ripresa, e quindi quando è stato questo evento della morte del figlio è riuscito a evitare lo standard e la stereotipia che vengono collettiva, che vengono sempre attribuiti alle persone non extraeuropee, quasi che lo stato di consapevolezza automaticamente le inserisce in una routine fisiologica collettiva, mentre lui ha preso questo momento del, tra virgolette, privato, di un dolore personale, dove i momenti di analogia naturalmente con quelli nostri c'erano. Questo fu l'avvenimento, era frutto di una consuetudine e di un poter tirar fuori la macchina senza portare addirittura di entrare in una privatezza che spesso all'etnologia nostra, all'antropologia, è uno dei limiti della ricerca che è stata fatta anche nel passato. Perché forse la macchina da ripresa certe volte può dare maggiore vivezza che non la trascrizione a parole. Ecco, quindi quale interesse hanno avuto questi studi in altri settori di ricerca? Lei appunto citava poc'anzi l'antropologia, quindi gli antropologi, sì, per esempio, come hanno reagito, sì, a queste indagini sul campo? Esiste adesso ormai una fortissima tradizione di antropologia visiva, fortissima, soprattutto nata in Francia e poi sviluppata in Inghilterra, ma non molto tempo fa. Sì, Flaherty, i film di Flaherty sono dei primi vent'anni del Novecento e rappresentarono un momento etnologico, anche se si sa che quello che gli riprese esisteva, ma era stato ricostruito in vitro. Era quel problema che abbiamo detto l'altra volta della lamentazione in vitro, cioè di dettaglio vero preso reale ce n'erano pochissimi, poi è tutto leggermente ricostruito, cioè provocato, non ripreso nel momento così. Poi l'etnologia, soprattutto con Rusch, ha avuto una grande importanza senza dubbio in Francia. In questi ultimi 50 anni l'antropologia visiva si è sviluppata moltissimo e adesso è un fatto molto interessante, perché con tutta l'elettronica e con la telecamera gli antropologi si trovano che hanno a disposizione dei mezzi che non sanno usare, oppure o non sanno usare alcuni, o non la usano con una mediazione, può essere professionale, oppure se la usano direttamente bisogna sapere esattamente quello che si vuole, se no non c'è una differenza tra professionalità, non professionalità e amatorialità. È una situazione molto complessa, cioè la tecnologia ti dà degli strumenti molto a tua disposizione, cioè quello che è la ripresa, per esempio per quello che riguarda le riprese di antropologia della musica, formidabile, ripresa immediata, sincronia, non hai problemi di montaggio, di ciak. Però non c'è ancora un'eccessiva disinvoltura nell'usarlo. Io dico, non so, no, per parlare male di Garibaldi, in Italia è discontinuo, però anche in altri posti. In altri posti c'è una fortissima tradizione del documentario a 16 mm, che però in Italia non c'è. In Italia non c'è stato un pubblico a 16 mm. Le nostre sale di proiezione erano tutte a 35 mm, quindi... Però vorrei dire che questo interesse per il corpo poi è stato anche, si è ampliato anche naturalmente alla musica, cioè sì, alla corporeità nel fare musica. Sì. Noi potremmo vedere un film muto da come uno si atteggia, si può vedere, a parte che puoi vedere lo strumento che suona, proprio soltanto. E poi il corpo è di un'importanza enorme come identità culturale. Quando l'altra volta dicevamo a proposito del revival, che molti revivalisti si ripresentavano nel posto da dove avevano preso dei materiali e non avevano successo perché il corpo non rispondeva alla tradizione visiva di quelli che erano del posto. E quindi c'era una dicotomia tra quello che si sentiva suonare, a parte da discutere, ma era proprio il corpo che non si muoveva. E quindi in fondo, se noi pensiamo... La scissione tra immagine e suono è un fatto che è avvenuto dopo il fonografo Edison. Prima la musica è sempre vista, a meno che uno non sente da lontano le valli o uno nascosto la stanza di sotto, come poteva essere così, ma la normalità della musica era che era vista contemporaneamente. Invece il fonografo Edison ha fatto la radice quadrata e ha estratto la musica. E forse questo è stato anche un fatto, a parte i vantaggi di poter avere una musica più a portata di mano, forse l'ha anche interiorizzata, ma per quello che riguarda le immagini ha provocato una scissione che non era nella tradizione, la musica era sempre vista. Non esiste dato verbale, in fondo, che non si accompagna a un gesto. Lei ha detto poc'anzi che, è chiaro, possiamo anche riferirci a un film muto e quindi all'interpretazione soltanto gestuale del dato filmico, sì, ma in realtà appunto è quasi sempre anche la parola che si accompagna al gesto. Sì. Ecco, che rapporto esiste fra questi due momenti, sì, tra il dato verbale e quello gestuale? Sì, sì. No, io voglio dire, pur essendomi occupato di queste cose, non mi lascio intrappolare dalla seduzione che la parola immagine sia un out, naturalmente. Penso che sia un et, però è anche vero che ci sono situazioni in cui la parola può non esserci e si capisce lo stesso. Voglio dire che questo bisogna essere dentro molto al tessuto culturale e sociale in cui si vive, in cui, come si dice anche normalmente, basta uno sguardo, per farti capire la situazione. Ma uno che non è dentro a una situazione culturale e sociale, basta uno sguardo, non c'è effettivamente. Così certe volte si assiste, per tornare ancora alla documentazione visiva, cinematografica o video, si assiste a delle documentazioni che visivamente sono soddisfacenti. E poi sopra c'è un commento che è assolutamente superfluo e inutile, perché o replica quello che si vede o non ha un contrappunto critico con quello che si vede. E così anche questo fa parte, diciamo così, delle suggestioni del visivo, la famosa, il famoso gesto di no per noi, che in albanese o in bulgaro si è sì, come diceva Jacobs, e viceversa. Oppure noi lo abbiamo anche, ha detto sì ma con una faccia, cioè dove l'espressione verbale può essere del tutto contraddittoria a quella che prima poi. Alcuni ritengono appunto che il gesto sia un rafforzativo della lingua, sì, e altri sostengono appunto che il gesto invece abbia una sua autonomia, mi sembra che questa sì, sia sì, la sua tesi. Sì, senza cadere forse nell'estremizzazione totale. Però vorrei dire, è anche vero che per quello che riguarda la conoscenza, che ormai insomma si dice così, potrebbe essere in tante maniere antropologica, etnologica, è vero che spesso la visualità è come quel pezzo di privato di lamentazione funebre in Nuova Guinea. La visualità, in essi la visualità attenuano alcune certezze della logica verbale. Tutto sembra, ma io lo dico perché certo che vale pure, se uno chiede a un matematico ma la logica verbale, ma lui dice sì, perché non c'è nulla che mi fa firmare l'essenzialità della formula. La formula la devi scrivere. Poi può esserci una matematica visiva, ma in altro senso, però la formula va scritta. Però il fatto che va scritta queste volte non corrisponde nella visiva all'evento, e così per esempio nell'antropologia più recente si è data molta importanza alla medicina, e diventa un'antropologia assolutamente medicale e non tiene conto invece che certi movimenti, certi atteggiamenti sono probabilmente di poesia e non di malattia. Questa è una delle scoperte della visione dell'antropologia visiva. Lei mi chiederà, credo, anche perché ne avevo parlato un attimo prima, i suoni, come sono arrivati alla musica. E perché dopo questa esperienza, circa 8 anni, 9 dopo, perché non è un documentario, è un fatto di ricerca, quindi un po' più lento il cammino, a parte quale possono essere le difficoltà, e realizzato altre 3 ricerche con un dipartimento che c'era della RAI e del dipartimento ricerca e sperimentazione, e dedicato a degli strumenti in Sardegna, in Calabria e nella pianura padana. E in questo senso le riprese delle esecuzioni di questi suonatori, di questi musicanti, suonatori popolari, e punta molto sugli atteggiamenti corporei che hanno nel corso dell'esecuzione. Mm-hmm. Anche su questo argomento abbiamo poi della documentazione, degli estratti sonori che abbiamo appunto ricavato dai filmati originali di Diego Carpitella. Volevo dire una cosa, sì, che in queste ricerche di antropologia visiva esistono, ma in Italia non ho mai visto usati dei microfoni, un microfono come quello che c'è qui, però piatto, si chiama la palette, e messo così può riprendere visivamente, quindi a fondo poi avremmo dovuto fare una ripresa. Sì. Volevo ancora tornare un attimo sul rapporto tra cinesica e espressione linguistica. Ecco, sarebbe possibile instaurare un parallelo tra appunto cinesica, espressione linguistica, e musica e testo letterario? Sì. Indubbiamente, come dicevo prima, per esempio, alcune caratteristiche della cinesica, cioè del movimento del corpo a Napoli, c'è un'ampiezza, un movimento largo delle braccia, molto simmetrico, cioè un movimento simmetrico e ondulato in alto, che segue un po' la melodia di frase del napoletano. Non è una normativa immediata di causa e effetto, però segue molto questa onda. E il sardo, che invece è per esempio una lingua dialetto tetica, cioè sempre in battere, I movimenti sono sempre molto serrati, chiusi, gomiti molto stretti al tronco, tensione dello sterno, che, in cui uno vede questa corrispondenza. E le guardi, qui sono come un po' la discussione che abbiamo avuto la prima volta anche con Cirese a proposito del testo della musica. Alcuni sono di teoria alla Hanslink, che farò senza Euridice, e se invece era che farò con Euridice, ma la musica rimane la stessa. Altri invece dice che invece che senza un con, cambia. Questi sono i dettagli che fanno questo rapporto. Cioè, la parola come complesso è di significato, è di fonologia del discorso, può sonorizzare il gesto. Il gesto può essere sonorizzato in una certa maniera, però è un quesito a cui veramente nessuno si sente di rispondere in maniera, forse il neurologi. Quello che stiamo ascoltando sotto è un estratto proprio dalla cassetta da Napoli, la vecchia Carnevale, un canto di questa che si faceva pochi anni fa per le strade di Napoli a mezza quaresima. Più che un canto truccato, è una rappresentazione. Sì, una rappresentazione di un uomo che si truccava con una cinta all'altezza della vita, dove era intorno alla testa di una vecchia, e questa vecchia era naturalmente il segno del carnevale. Che poi c'è anche, avendo visto il filmato, c'è anche una certa simbologia sessuale. Molto. Oh, sì, certo, la testa. Molto pronunciata, tra l'altro. Pronunciatissima, e anche nella ripresa di questo documentario c'è anche in una ripresa al quartiere del Pallonetto, come lei avrà visto, una scena molto vivace, che peraltro dopo che fu girato creò diversi problemi, perché molti non avevano pensato che la ragazza che si era lasciata andare era perché era in una situazione protetta, non perché era cioè, pensarono che questa è libera di costumi, invece no, era la situazione protetta sociale che gli faceva fare questo movimento. Non c'è più questa cosa di questo. Ecco, tanto la regia ci manda quest'altro estratto sonoro. Ecco, questo il professore lo riconosce subito perché sì, questo qui naturalmente fa parte della teatralità e direi che è una delle più grandi fortune che io abbia avuto. È un racconto di Puccini e l'ha recitato da Roberto De Simone. Sì. Al quale proprio allora, nel 1972, chiesi di illustrare alcuni pezzi del De Iorio. Lui prese un certo numero di gesti del De Iorio e fece questo racconto gestuale in una scuola elementare dei quartieri, e noi entrammo lì, la ripresa, niente, improvvisamente, non c'è nulla di preparato. E naturalmente De Simone, con la sua fantasia fantastica, creò questo racconto di 10 minuti dove ci sarebbe stata la parola, faceva un gesto. Qui c'è tutta una problematica, sì. Cioè se questi gesti, alcuni sono reali oppure fanno parte di una gestualità di tradizione teatrale, è una cosa un po' complessa. Ascoltiamone un attimo, sì. Un frammento in primo piano di questa partecipazione dei bambini che in fondo prolungano i silenzi di De Simone, che vengono sostituiti da una gestualità. Cantando vai rubando, allora dice Pulcinella, per carità, io non vado rubando, mi dovete credere, dice, ma insomma tu che cosa vuoi? E allora fece il gesto dice, allora tu ti muori, ma perché da quanto tempo non mangi? Ma tanto tempo? Dice, ma si può sapere da quanto tempo tu non vai mangiando? Dice, da ieri mattina. No! Dice, da quando? Dall'altro giorno. No! Da 3 giorni. No! Da una settimana. No! Dice, da quando tu non mangi? Da stamattina. Voi vedete che qualche volta i ragazzi addirittura precedono il gesto, perché già sanno la logica della parola, e quindi si trovava che Roberto De Simone faceva il gesto dopo. Oppure certe volte c'erano dei gesti che avevano cambiato significato. Per esempio il famoso gesto dell'indice vicino al naso, lateralmente, che nel De Iorio significa quello è furbo, mentre ormai era diventato attento che viene la polizia, e aveva cambiato segno. Ce ne sono tanti altri che hanno cambiato segno, pur essendo gli stessi nel corso del tempo. Ascoltiamone un altro frammento in primo piano. Dici, se dura un altro poco che sta vita! Mor! E allora la guardia disse: guai a te, guai a te, guai a te, guai a te. Dice: se tu non te ne vai, io qualche altra volta. È interessante che in questa ripresa nella scuola, che veramente è un pezzo unico, Roberto era insieme a Beppe Barra, e anche Beppe Barra interveniva in qualche momento di questo racconto, però c'era una notevole differenza, nel quale il tasso di teatralità di Beppe Barra era molto più forte. Ed era anche riconosciuto, mentre in quello di De Simone era molto più contenuto e rientrava più in una quotidianità. Come vede, il linguaggio del corpo interessa molto anche chi si occupa di musica, poi nel caso di De Simone non c'è dubbio. C'è stato un momento di convergenza strettamente legata alla teatralità e soprattutto alla oralità dell'espressione. Esiste una formalizzazione simbolica, sì, ovviamente, di questi dati cinesi che vengono osservati. Sì, soprattutto il maggiore sviluppo come disciplina negli Stati Uniti. Direi che uno dei padri è Bart Whistell, che viene dalla linguistica e poi dedicato alla cinesica. Bart Whistell sente molto il nesso con la lingua, naturalmente, però anche lui in questo dilemma con la lingua o con un linguaggio autonomo, ma Bart Whistell è forse uno dei maggiori. Poi è stata studiata molto nei rapporti della cinesica con la danza, soprattutto da Alan Lomax. 4 anni fa ha fatto 50 ore di registrazione con video, con telecamera, sulla storia del bluesman, basato molto sulla cinesi. Comunque, ecco, insomma, c'è un modo di scrivere in qualche modo i dati cinesi. Sì, assolutamente. E serve come esercitazione mentale, è come il sistema della lab annotation per la danza. Cioè, serve come esercizio mentale, che poi uno possa passare tutto il tempo leggendo la notazione. Questo no, perché fortunatamente l'uomo ha inventato il cinema, l'elettronica, il video. Però il problema è di integrare questo tipo di... Si potrebbe dire che per la cinesica i dati importanti siano la durata e l'angolazione del movimento. Sì, la durata, l'angolazione, quindi anche la direzione e anche la velocità. La velocità. Sì. Ecco, abbiamo parlato di De Simone. Con De Simone abbiamo registrato qualche giorno fa questo contributo. Vorrei che lo ascoltassimo insieme al professor Capitella e poi lo commenteremo insieme. Questo è un esempio musicale che ci ha proposto Roberto De Simone. Ecco, vorrei proprio chiedere a Roberto De Simone di commentare lui stesso questo brano e di dirci effettivamente di cosa si tratta. Si tratta di una struttura molto complessa di danza e di canto che si osserva a Giuliano e nella zona proprio del giulianese. È un'esecuzione ricchissima di stimoli ritmici e di stimoli di invenzione, per quanto questi stimoli sono rigorosamente formalizzati all'interno di un codice di improvvisazione, ma comunque legato ai movimenti del ballo. Potrei parlarne moltissimo, perché si tratta di un pezzo tra i più interessanti della tradizione campana, e eseguito da virtuosi, ecco, di questi strumenti, i quali sono i più grossi rappresentanti della stessa tradizione giulianese. Le ricerche che lei ha fatto in Campania, ha trovato appunto delle strutture interne alla musica che in qualche modo lei poi ha riutilizzato nelle sue composizioni, quanto è importante per lei, diciamo, quanto sono importanti le tradizioni popolari. Certo, le posso dire una cosa: per me la tradizione popolare ha molto inciso su una morale, un'ideologia che poi mi sono fatto della musica. Ho studiato regolarmente al conservatorio, però ecco, l'indirizzo al popolare mi è stato proprio dettato da una crisi dei linguaggi. È chiaro che proprio in relazione ai linguaggi un qualsiasi frammento autentico di questo tipo di cultura, che si inserisce tutto in un altro codice e in un altro proprio, diciamo, sistema di comunicazione che dipende dalla ritualità, dal tempo in cui la musica e la danza o il teatro si mostrano, non possono essere impunemente trasportati in un codice teatrale che è di un'altra cultura. Per cui, come è sempre avvenuto del resto, quando dei musicisti o dei teatranti si sono riferiti alla tradizione popolare per inserire dei frammenti oppure per riferirsi a questa cultura, io mi sono semplicemente riferito fantasticamente a dei codici popolari, fantasticandoli e inventandoli da capo per il contesto teatrale, dove appunto il dato stilistico invece è di enorme importanza. Le potrei fare degli esempi così, che possono magari risultare anche banali, molto semplici, per quanto riguarda, ecco, certi riferimenti che io addirittura dato alla tradizione nella mia Gatta Cenerentola, e le posso far vedere il procedimento di riferimento al popolare, invece come vengono ritradotti nel linguaggio teatrale. Sì. E io stesso glieli posso suonare al pianoforte e glieli accenno a cantare, scusandomi del canto, chiaramente. Ecco, per esempio, nella tradizione del casertano, proprio in questo periodo del carnevale, ci sono due canti che si eseguono su dei carri, cioè, che sono un po' dei canti, diremmo, quasi da naia, di giovani, canti quasi da caserma, eccetera. E a questi ho fatto riferimento nella Cenerentola. Le faccio prima sentire un primo frammento che presenta un testo analogo a quello della stessa Gatta, dove dice, ecco, che bella mano tiene la prima sora, eccetera, è uno dei brani che si riferiscono al mito delle sorelle. Dunque, così viene eseguito nella tradizione popolare. Che bella mano che te na campagnola, che bella mano che te na campagnola, l'ha fatta apposta cu che la mano fora, quant'è bella prima sora, me ne vena consola. La fatta apposta cu che la mano fora, quanta bella campagnola che mi viene a consolare. Ecco, questo brano è stato da me fantasticato e riproposto in un contesto che allude anche alla struttura dei canti seicenteschi, che appunto erano nel contesto stilistico del Basile, del Seicento, della Gatta Cenerentola, e viene rifatto in questo modo. Che bella cosa che te na prima sora, che bella mano che te na prima sora, la fatta bella che la bocca fora, quant'è bella prima sora, ma la fatta andando da tu. Che la bocca da va bucchiare. per esempio un canto che si riferisce, sono sei sorelle, sono tutte belle, che viene nella tradizione popolare sempre del casertano cantato così. Son sei sorelle, son tutte belle, son tutte belle per par l'amor. Son sei sorelle, son tutte belle, son tutte belle per par l'amor. Ecco, io nella gatta l'ho dato in bocca ai soldati all'inizio del terzo atto e diventa il canto trasportato in questo modo. Sono sei sorelle, sono tutte belle, sono tutte belle per fare l'amor. Sono sei sorelle, sono tutte belle. Insomma, questi due piccoli esempi, ecco, che appunto dove il riferimento al popolare è più comprensibile nella sede di questo discorso, ma poi ci sono altre cose che si riferiscono invece alla struttura, al tempo, alla ritualità, delle quali sarebbe più complesso e più lungo parlarne. Vorrei che parlassimo del gesto. Ecco, quanto è importante l'osservazione del gesto popolare e la riutilizzazione, diremo così, tra virgolette, colta di questo gesto popolare? Ma bisogna fare riferimento, bisogna innanzitutto distinguere tra gesto quotidiano innanzitutto e gesto rituale o gesto ritualizzato all'interno di un momento rituale della tradizione. Il gesto quotidiano si riferisce ad accenti ritmici della voce, dove molto spesso questi gesti vengono assecondati o negati da un particolare movimento del corpo. Invece nel gesto rituale il linguaggio, diremmo, di alcuni modelli che si ripetono invariabilmente, sia pure con la caratterialità dell'esecutore, esprimono un mondo arcaico, esprimono un mondo di segni ritualizzati, un mondo mitico, dove appunto ci si riferisce a un'azione mitica. Molti di questi gesti tradizionali o rituali alludono per esempio ad azioni che si ritrovano in tutta la tradizione campana, ma anche in altre tradizioni, per esempio il gesto del seminare, il gesto dell'arare, il gesto del tagliare, il gesto del volare in riferimento agli animali, il gesto del saltare in riferimento ai cavalli, oppure il gesto dello squittire, del dondolarsi come le oche, come gli uccelli, come le anatre, eccetera, dove certe trasposizioni, per esempio teatrali, le ritroviamo perfino in Totò, il quale, ecco, con quei gesti del mento, eccetera, si riferiva anche a dei moduli che sono tuttora osservabili in certe aree campane e che ricorrono in molte danze collegate alla ritualità, per esempio per la Madonna di Castello, se si pensa che l'origine appunto di Totò di De Curtis era proprio di quella stessa zona, ecco, ci si può riallacciare a quanto molto spesso le persone di teatro si sono riferiti a un gesto culturale, il quale chiaramente non può avere lo stesso significato che ha nella tradizione. In teatro acquista una nuova valenza, un nuovo significato, ed in questo senso non è nemmeno importante ripeterlo allo stesso modo, ma bisogna, dico io, ripescarlo all'interno della disponibilità dell'attore, dell'esecutore. Le posso dire questo, il discorso della tradizione per quanto riguarda il gesto in teatro è molto complesso, perché il gesto teatrale innanzitutto va formalizzato per lo spazio e per la rappresentazione teatrale, per cui, ecco, c'è bisogno di un codice unitario che tiene conto della caratterialità degli interpreti, ma ha bisogno di una cifra stilistica unitaria, altrimenti ecco, il gesto sulla scena perde il suo significato di scansione del tempo, non si riferisce più a un tempo unico di rappresentazione, ma si riferisce a tempi diversi collegati all'istinto naturale dei singoli attori. Invece c'è bisogno molto spesso in teatro che tutto viaggi su un unico binario ritmico. Quest'ottica mi sembra si chiariscano quindi gli interessi per la democinesica, che per gli studi democinesica che lei condusse anche nel 73, se non erro, a Napoli, sì, proprio con Diego Carpitella. Sì, certo. Io devo dire che in quell'occasione mi divertii moltissimo con Diego a fare questo lavoro. Facemmo un lavoro splendido in una scuola elementare, appunto, dove rimanemmo così meravigliati di come la tradizione dai tempi, non lo so, in circa 200 anni non si era affatto modificata. Con Lucia miau miau, canta canta e miata, con la cucula grassata, la cuttia cucoro cucu, rucca rucca palla rota, gira con la gente cora pene mia, miau miau cucoro cucu, grande cucula angalora, sossa tua popolara, giorgio di la popolara, nuova ambietta giamminata, la bellezza ne regata, alla pietta innamorata, pizzule alla premiata. Zuccarata, occhi tua, tizza tua, cula tua, Giorgio ti è la disperata, non passa la nottata, cozza capo e posto stira, a tua porta mocasina, alla trasa presta singa, brutta schiava che mo venga, una angela che ci manca, fa la rota e non si stanca, fa la rota, va e piena, alta venda, luna piena, panza piena, la satita sta lucerna, cuore tosto che ti perna, ma piuttosto a capa mia, si rumba gelosia. Voglia la garzella, tutta cera pagurella, pianta izza tua bonnella, dai acqua caminella, piglia acqua stampa nesta. Ecco, era l'intervista che abbiamo realizzato con Roberto Di Simone qualche giorno fa. Sì. E mi dispiace che veramente così per vari impedimenti sì. Roberto non sia venuto qui perché insomma siamo anche molto amici. E poi ci collegano queste esperienze a cui ha accennato anche Roberto, quella volta in questa scuola elementare dei quartieri di Napoli. Di cui abbiamo ascoltato prima l'estratto, era riferito a quell'estratto. E poi anche quella danza che è un misto tra la tamburiata e cantafigliola. Mi ricordo che c'ero anch'io a Giuliano quel pomeriggio, era un pomeriggio di una domenica e era veramente questo esempio e questa documentazione è veramente eccezionale. E devo dire una cosa che ripeto, ma che io tutte le volte che sento, diciamo in genere queste cose di Simone, di questa parte dell'esperienza, mi chiedo sempre qual è stata la procedura rispetto alla cosiddetta tradizione musicale popolare di alcuni compositori del passato. Noi viviamo in un momento dopo il romanticismo dove vi è stata una forte demarcazione tra colte popolare, fortemente ideologizzata e quindi questa drammaticità dell'out-out colte popolare. Mentre nel caso di Roberto De Simone c'è una consapevolezza critica della presa di questo patrimonio e c'è anche una consapevolezza critica dei procedimenti che egli stesso dichiara. Beh, sinceramente, se noi avessimo dei quaderni di appunti di alcuni di questi compositori che ci dicessero queste procedure, facciamo finta Monteverde con l'ottavo regma o Gesualdo da Venosa con una certa polifonia contadina meridionale, cambierebbe il profilo della storia della musica. Ma questo è un intervento che abbiamo previsto in questa trasmissione, in quanto fra non molto avremo un'altra registrazione che riguarda proprio questo aspetto, estremamente interessante, i rapporti proprio tra colto e popolare. Immagino le influenze che si riferisce alle... Una sorpresa anche per lei. Ecco, con questo contributo di De Simone siamo quasi sull'incipit di un'ulteriore tematica che affronteremo appunto tra poco, cioè queste contaminazioni più o meno strette tra colto e popolare. Ma vorrei concludere questa esperienza degli anni 70 sulla demo cinesica e con la ricerca in Barbagia. Ecco, per esempio, questa ricerca in Barbagia, che è la seconda in ordine cronologico, Barbagia ovviamente in Sardegna, ecco, si può parlare in questo caso di microcinesica. Sì. Ecco, cioè un micro... Ecco, spieghi lei, professore. Quello che dicevo prima, che spesso, soprattutto legato al dialetto napoletano, c'è un'estrema larghezza della melodia a cui corrisponde una simmetricità e un movimento largo laterale, soprattutto delle mani. Se uno ha dinanzi agli occhi gli ex voto napoletani, nel segno di devozione si vedono sempre queste braccia allargate, ampie, che si vedono anche in altre culture, ma che qui hanno una corrispondenza anche in una gesticolazione quotidiana. In Sardegna, come dicevo prima, il gesto è tutto chiuso, serrato, gomiti legati al tronco, mani a coppa in su, tensione dello sterno, immobilità delle spalle, movimenti laterali quasi impercettibili del collo e della testa, fissità dello sguardo. Ecco, questo noi l'abbiamo visto in una situazione pubblica, che era quello dei santuari, delle novene che si fanno nei santuari di campagna in Sardegna. E poi, certo, poi c'è una cinesica privata dove aumenta, per esempio, la differenziazione tra uomini e donne. Sì. C'è una forte differenziazione, perché poi invece in privato si può assistere anche a una cinesica. La cinesica, l'involucro rimane sostanzialmente la stessa, ma l'impeto è tale che altera alcune connotazioni. Ma noi abbiamo preso soltanto quella specie cerimoniale, sociale e comune. Ecco, adesso in sottofondo dovremmo ascoltare un estratto da una morra. La morra è un gioco, esatto. In cui sono rimasto abbastanza colpito nel vedere nel filmato che ci ha prestato gentilmente Carpitella, come questa ludico cinesica, si potrebbe chiamare, ecco, ha una ritmicità impressionante. Sì, ecco, qui c'è veramente un andamento musicale e fonico dovuto alla scansione dei diversi numeri che vengono recitati. Il dato cinesico qua è importante. Comunque. Però, come al solito, vabbè, non c'è una cosa ovvia. Vedendolo, certo, si vedono certe rigidità in cui il tronco rimane quello della tradizione, ma la situazione emergente si realizza tutto sulla velocità del dire i numeri e del guardarsi negli occhi. Però la rigidità del tronco e le spalle e dell'immobilità rimane quella. Ed è interessante, poi qui non c'è alcune morre che poi da questi si trasformano in canto. Come al solito, quando fanno queste ricerche, non esiste come il fiction, il sopralluogo e poi il momento del girare. Sì. Uno dovrebbe sempre girare, perché è sempre tutto sopralluogo. E quella parte noi prendemmo in registrazione col sonoro, poi non siamo riusciti a prenderlo col visivo. Mettiamone proprio un frammento per rendere idea di questa ritmicità veramente incredibile. Segui, segui, che me, che me, che me, che me, segui, segui, quando, vi lui, quando, vi lui, quando, quando, quando, segui, quando, segui, brrr, che me, segui, che me, segui, segui, che me, otto, a chi la sa, che me, segui, segui, otto, sette, segui, che me, segui, a chi la sa, segui, vede, c'è un accenno nell'interruzione del canto. Quello che è molto divertente sono questi riferimenti pindarici a Roma, a Dante, così, che vengono e che però hanno degli ammiccamenti e dei sottintesi all'interno dei giocatori. Lei sa che c'è un'interpretazione dell'amore che sia una delle forme di scarico dell'aggressività, cioè che è un'aggressività contenuta che viene formalizzata nel dire i numeri, ma è una delle interpretazioni. In ogni caso il microsistema cinesico sardo tende, forse si potrebbe dire, più alla informazione che non ha una comunicazione come per esempio è a Napoli, certo, oppure in Sicilia. Certo, è più all'informazione. E la parola microsistema che è stata utilizzata corrisponde poi alla parte musicale. Il sistema sardo è proprio un microsistema dove in circostanze diverse ci si trova sempre con lo stesso insieme, non cambia l'insieme. Ecco, come per l'indagine a Napoli il punto di avvio fu dato dal trattato di Ghiorio del 1832, in Sicilia Il P3 forse ha esercitato una funzione analoga. Io adesso vorrei far leggere a Ennio Libralesso un brevissimo estratto dal P3 che riguarda appunto il gesto dei siciliani. Ascoltiamo. Provati, se non sei siciliano, a intenderti con un siciliano per mezzo dei segni e resterai nelle secche, perché metà dei ragionamenti e discorsi del siciliano sono muti e mimici. Anzi, ti accadrà non di rado di sentir cominciare un discorso con parole e di vederlo compiuto con gesti che suppongono frasi taciute, pretermesse e poi legare i gesti medesimi. Il siciliano vero, vuol dire il siciliano nato e vissuto in mezzo al popolo, non parla sempre, non dice tutto, non ti racconta per filo e per segno. Natura lo porta a risparmiar di parole quando gli è agevole di manifestar con gli atti. E se tu non sei tutt'occhi a guardarlo in viso e nelle mani, non intenderai una bucciata dei suoi discorsi. Ecco, quindi il gesto come un prolungamento della parola. Un prolungamento, quando dicevamo... Scusi, l'ho interrotto. Prego, prego. No, volevo dire questo, se si è all'interno di un sistema, sì, sono delle veramente millesimi di mutazione di intensità dello sguardo, intensità e angolazione dello sguardo, in cui si può fare addirittura un racconto, e anche P3 fa un racconto di due persone che si vedono al teatro, uno in platea e uno nel palchetto, e raccontano i fatti di quello che è vicino, così, soltanto guardandosi negli occhi. Questo certo pone tutto un problema di antropologia sulla conoscenza, fino a quando uno è dentro un tessuto e via dicendo. Mm. In queste ricerche in Sicilia, quanto è stata importante l'osservazione proprio del teatro dei pupi? È molto importante perché, proprio anche ricollegandosi a quello che diceva Roberto De Simone prima e che abbiamo osservato, cioè bisogna certamente distinguere tra quello che è una teatralità del gesto e quello che è una quotidianità. Ecco, quando dicevo che i napoletani sono più famosi per il gesto, è proprio perché c'è quella che si dice una teatralità del gesto. In realtà poi il fatto che i napoletani siano considerati quelli che gesticolano di più è perché sono stati tra i maggiori emigrati negli Stati Uniti. E quindi quando si diceva italiano si intendeva un napoletano. E il napoletano è uno che gesticola, ma non gesticola più di quanto possa gesticolare un emiliano o un siciliano. Gesticola in una certa maniera che è diventato anche una stereotipia, che ne so io, come le pizze o i mandolini. Nel caso del Teatro dei Pupi, ai costruttori ormai erano gli unici, era il Cuticchio l'anziano, adesso c'è Cuticchio giovane a Palermo, il Teatro dei Pupi, quello che faceva i pupi, e che era anche lui che conduceva i pupi, il puparo, i volti sono presi tutti dal tipo di persone che era il pubblico. I Rinaldi, gli Orlandi, e Carlo Magno erano tutti volti di persone, cioè lo stimolo visivo. E questo, non c'è dubbio, è uno degli elementi per cui il Teatro dei Pupi ormai diciamo decisamente folclorizzato, però prima, ma ancora in alcuni posti c'è, sia nella provincia di Palermo che di Catania, nei personaggi del racconto cavalleresco trovavi la persona con cui ti sapevi identificare, era uno del, e molte ire, molte rabbie, molte incitazioni erano delle forme immediate di scarico, di simpatia e di antipatia. Questa è la prima cosa. Seconda cosa era il tono della voce, stretto in siciliano oppure in siciliano allargato, e questo naturalmente erano delle forme coinvolgenti. Quanto alla gesticolazione, era teatrale quella che vedeva, ma messa con quel tono di voce e con quei volti trovava rispondenza in una quotidianità. Questi sono i trucchi del teatro. E questo che rendeva popolare, sì, questo rispecchiarsi del pubblico, in fondo riconoscersi del pubblico attraverso i pupi. Sì. Quello che stiamo ascoltando è il puparo Giuseppe Argento, che narra le gesta di Rinaldo e fu registrato a Palermo nel 1967. Ascoltiamo un attimo questo modo di porgere proprio la voce a cui accennava il professor Capitelli. Ecco, te lo spiegherò subito! Tu mi hai ucciso sei fratelli e sappi che io sono fratello del morto Mambrino. Facendo di questo nome tu già sai tutto, sai quello che voglio dire. Benissimo, quindi ti ho sfidato in battaglia per darti la morte. Però potrei essere anche clemente nei tuoi riguardi. E come per esempio, se tu mi lasciaste subito il castello di Montalbano bonaramente. Basta andarsene con la tua famiglia e la tua schiera per una nuova destinazione che io saprò risparmiare. Vede quanto sono buono, Rinaldo! Naturalmente no, la questione del Teatro dei Pupi è una questione molto complessa, perché i testi che vengono qui hanno una tradizione d'appendice ottocentesca, anche novecentesca, è italianizzata per capirsi di più, ed era mediata dal puparo che in genere era un semi-analfabeta, non era analfabeta perché sennò non avrebbe consultare questi libri d'appendice. Però era un diffusore di cultura, ma qui è importante l'aspetto musicale fonologico, come detto, il tono, il timbro, l'andamento, per cui il tono, il timbro e l'andamento corrisponde veramente, è il caso di dire queste frasi melodrammatiche, alla notte dei secoli, anche se i testi sono ottocenteschi, nessuno, non sono testi cinquecenteschi, ottocenteschi, no, però la narrazione c'era, poi nel momento nazionalistico, folclorico dell'Ottocento, hanno avuto emergente questi rifacimenti d'appendice dei poemi cavallereschi. Ecco, di recente, proseguendo per questa via dell'interesse verso il mezzo filmico, per una antropologia visiva, ecco, di recente lei ha fatto degli studi sugli strumenti musicali, qui accennavo, qui facevamo cenno proprio in inizio, in apertura di questa trasmissione. Strumenti musicali in Sardegna, in Padania e in Calabria, dall'82 fino all'88 con i Quaderni di Reginaldo. Ecco, parliamo brevemente dei primi studi che hanno trovato concretizzazione in una serie appunto di filmati, che è la serie dei suoni, tra l'altro, dove diceva poc'anzi il professor Capitella. Sì, una serie, la prima è in Sardegna. Sì, una serie di ricerche cinematografiche, in questo caso è puntato su uno strumento che sono le launeddas. Ecco. Lo strumento più arcaico non soltanto della Sardegna, ma di tutta l'area mediterranea. È uno strumento a fiato continuo, la cui testimonianza si trovano in una statuetta nuragica, quindi circa 3.000 anni avanti, organizzata per capirsi di più, ed era mediata dal puparo che in genere era un semi-analfabeta, non era analfabeta perché sennò non avrebbe consultare questi libri d'appendice. Però era un diffusore di cultura, ma qui è importante l'aspetto musicale fonologico. Come detto, il tono, il timbro, l'andamento, per cui il tono, il timbro e l'andamento corrisponde veramente, è il caso di dire queste frasi melodrammatiche, alla notte dei secoli, anche se i testi sono ottocenteschi, nessuno, non sono testi cinquecenteschi, ottocenteschi, no, però la narrazione c'era, poi nel momento nazionalistico, folclorico dell'Ottocento, hanno avuto emergente questi rifacimenti d'appendice dei poemi cavallereschi. Ecco, di recente, proseguendo per questa via dell'interesse verso il mezzo filmico, per una antropologia visiva, ecco, di recente lei ha fatto degli studi sugli strumenti musicali, qui accennavo, qui facevamo cenno proprio in inizio, in apertura di questa trasmissione. Strumenti musicali in Sardegna, in Padania e in Calabria, dall'82 fino all'88 con i Quaderni di Reginaldo. Ecco, parliamo brevemente dei primi studi che hanno trovato concretizzazione in una serie appunto di filmati, che è la serie dei suoni, tra l'altro, dove diceva poc'anzi il professor Capitella. Sì, una serie, la prima è in Sardegna. Sì, una serie di ricerche cinematografiche, in questo caso è puntato su uno strumento che sono le launeddas. Ecco. Lo strumento più arcaico non soltanto della Sardegna, ma di tutta l'area mediterranea. È uno strumento a fiato continuo, la cui testimonianza si trovano in una statuetta nuragica, quindi circa 3.000 anni avanti Cristo, non è proprio a tre canne, ma insomma fa supporre questo. E sono pochi i suonatori di launeddas che sono rimasti, perché lo strumento non viene insegnato, come secondo me dovrebbe essere insegnato anche in un conservatorio. Sono pochi e naturalmente è cambiato anche il modo di apprendimento. Prima i ragazzi andavano a imparare il mestiere di calzolaio, imparavano anche le launeddas. Oggi forse sono più i cittadini che vengono, come qui da Dionigi Burranca, a imparare questo strumento. Quello che c'era da riprendere dal punto di vista corporeo era tutta la tecnica del fiato continuo. Uh-huh. Il fiato continuo e quindi le guance, la tecnica delle guance e la respirazione continua. Ecco, dalle launeddas e poi dalla Sardegna, quindi si è passati alla Padania, in cui ha fatto una serie di studi delle orchestrine, delle piccole bande. Sono delle piccole band formate da 11 persone di strumenti a fiato. E voglio dire soltanto un lato divertente. Molti i nonni, no i nonni, i padri, anche i nonni di questi esecutori adesso erano quelli che suonavano nelle navi, nei transatlantici, per gli Stati Uniti, agli inizi del Novecento, ed erano quelli, alcuni di questi fecero parte anche delle prime jazz band, dove c'erano composte dagli italiani. Per quello che riguarda la tradizione adesso, la cosa più divertente, che questo da un punto di vista sociologico, antropologico, interessante, chi muore ancora nel suo testamento lascia una certa somma per le musiche che devono essere eseguite durante il suo funerale. Ed allora avviene una cosa del tipo come le jazz band in New Orleans, durante, e cioè qui invece all'accompagnamento si sentono ballabili, polche, danze, mazurche, sì, che arriva un corteo funebre con tutte danze, perché quelle sono le musiche, non funebre, ma le musiche che piacevano a lui in vita. E quindi è abbastanza inusitato di sentire durante un corteo, naturalmente, questo tipo di danza che è fatta perché lui, e spesso un tempo lo lasciavano per tradizione così, poi siccome non si fidavano e i figli un po' si vergognavano, adesso vanno proprio dal notaio a depositare le musiche che devono essere eseguite, perché affinché sia rispettata proprio la loro volontà. Esiste ancora, quindi? Sì, sì, sì, questa è una tradizione che ancora esiste, a Colonna, eccetera. In Calabria. Arriviamo alla Calabria. La Calabria, quindi, una prima ricerca su inserita appunto in questa serie dei suoni, sulla chitarra battente, e poi, ecco, lo stiamo ascoltando in sottofondo, e poi, quindi, i quaderni di Reginaldo, di cui parleremo tra un attimo. Parliamo un attimo di questa prima. La chitarra battente, lo sanno tutti, è una chitarra tonica dominante, e si chiama battente perché durante l'esecuzione le nocche delle dita, le nocche del pollice e delle altre due dita vengono battute nella cassa della chitarra. Anche questa è una chitarra che è diminuita, i suonatori sono molto pochi, ha avuto un rilancio molto limitato nel revival, perché è più la chitarra francese, e lo stile di canto particolare che può essere seguito su questa chitarra, e che ancora, e che è costruita comunque da artigiani, non è uno strumento costruito da sé, perché appartiene a una fascia artigiana. La Calabria la ritroviamo subito nelle recentissime indagini di Carpitella. Sono indagine che si riferisce ai quaderni di Reginaldo. Ecco, vorrei che fosse il professore stesso a dirci chi era Reginaldo. No, Reginaldo, per carità, tocchiamo. Cioè, chi è, mi scusi, chi era allora Zubruno? Sì, chi era Zubruno, no. È un caso particolare, è questo pittore scultore di Spininga, vicino Capo Vaticano, che nella sua attività di pittore e scultore annotava dei quaderni, diciamo che a suo modo ha fatto delle interviste a dei musicisti tradizionali. Reginaldo D'Agostino è un pittore scultore, adesso insomma è un pittore scultore che ha avuto diverse pagine dedicate da Giuseppe Berto, come un pittore popolare, di estrazione popolare, ma di consapevolezza critica. Allora, annotando questi quaderni, annotava gli strumenti come erano fatti, come erano costruiti, qual era il repertorio, quali erano i soprannomi dei musicanti, quando venivano eseguite, l'intonazione, e poi accompagnava queste interviste, ha accompagnato, perché queste sue interviste sono cominciate negli anni 50 e sono finite poi intorno alla fine degli anni 60, annotava questi strumenti. Quindi ci troviamo dinanzi a dei quadernetti dove sono disegnati gli strumenti che venivano dettati, per esempio, da un suonatore riconosciuto come lo Zubruno, e il tratto di questi disegni, questo è un merito suo, hanno una loro tradizionale essenza, e se vogliamo dire senza retorica, tra virgolette, una loro povertà, nel senso di molta essenzialità di strumenti. Ecco, lui ha saputo cogliere, è chiaro che lui questi strumenti li ha vissuti, li ha visti e ci viveva in mezzo, se no non poteva ridarli. Però sono frutte attraverso la memoria, cioè la memoria dello Zubruno, che è molto anziano, ottantenne, dettava i suoi ricordi, erano di stimolo ad un'osservazione circostante di strumenti, alcuni che c'erano e alcuni che non ci sono più. In altri termini, per dirla in maniera gergale, un trattatello di organologia, sì, degli strumenti. È stato oggetto di una ricerca, di una documentazione fatta nell'ambito di questa ricerca da Goffredo Plastino, è realizzato con BVU VHS da D'Onofrio e Vannini. È una ricerca soprattutto didattica, pedagogica, però in cui è stato fatto usato unicamente l'elettronica, cioè la telecamera. Allora, ascoltiamo un frammento che abbiamo... Ecco, uno degli strumenti, sì, scusi se prego, mi interrompo, uno degli strumenti che è venuto in evidenza è la lira. Sì, infatti adesso l'ascolteremo. Ecco. Ascolteremo in questo breve frammento che abbiamo estratto dal documento di Diego Carpitella, che è dell'87. Ho girato nell'87 e è uscito nell'88. È uscito nell'88. Ecco, su questo documento c'è prima Reginaldo che parla in fondo in modo anche molto poetico dell'anima musicale del legno, proprio della materia... Esatto. Prima. L'esperienza dei legni. Diceva un mio amico che di recente è stato, non di recente, per circa 2 anni è stato in Italia studiando la musica cambogiana, che la domenica i cambogiani a New York vanno dove i negozi sono aperti, la domenica vanno in questi negozi di legni e stanno tutto il pomeriggio a provare i legni per poi costruirsi gli strumenti. A secondo la sonorità del legno poi lo scelgono. Poi ascolteremo sempre di seguito, sullo stesso frammento, invece il suono della lira, questo strumento che loro chiamano lira in Calabria, costruito appunto da Reginaldo sui disegni dello Zubruno. Lo Zubruno è lo zio Bruno, ecco, diciamo, se no non è chiaro. La lira vorrei dire che ha rapporti di parentela con la lira greca, sì, infatti lì siamo in una zona anche di Magna Grecia. Ascoltiamo il frammento. O l'eraro, cioè il liutaio, insomma, quando scegliono pezzi di legno, già quando lo spacchi e cade a terra, già fa la distinzione tra i pezzi che si spaccano, quello che è più sonoro lo sceglie, perché significa che con il signore posso muovere, cioè l'ha voluto baciare, insomma. Quindi significa che il suono è quello. Cioè, capito, per esempio, mi cadono pezzi di legno in terra, vedi? Vedi quel pezzo di suono. Magari questo è un altro suono, senti, guarda, vedi, vedi, senti, vedi, e lui si regola quale pezzo di legno è più sonoro già, già all'origine, prima di essere sensibilizzato, vede se sa natura già uva so, cioè già l'ha scelto, è importante sto fatto. Lo zio Bruno diceva che per raccordare per esempio la lira, diceva che si doveva aspettare 20 nura. 20 nura significava che a campana grande del paese, la campana grande del paese, faceva 20 rintocchi alla distanza, per esempio, di 2-3 secondi. Don, don, don. E quindi dava la possibilità di poter accordare ula. Quando era il tempo di Natale, no? Tutti quelli che suonavano la lira si riunivano insieme e suonavano ognuno con la propria lira, ed erano di diverse forme. Partiva dalla lira piccola, cioè dalla liraca, fino alla lira più grande, fino al lirone grande. E facevano la pastorale, suonando questa pastorale qui. Io cercherò di farlo con una sola lira, cioè la parte che compete a questa lira qui, che c'era la più piccola e quella più grande. Questo qui faceva la parte, diciamo così, del canto, cioè la vera voce, insomma. Questa è la lira costruita sui disegni fatti da Reginaldo. Costruita da lui stesso. Costruita da lui stesso. Sui disegni suggeriti dallo zio Bruno, ma d'altra parte 30 anni, quando Reginaldo Agostini aveva circa 20 anni, questi strumenti ancora si suonavano. È stato gradualmente la scomparsa e l'emigrazione un elemento molto importante naturalmente di tutto questo. Ecco, quella che stiamo ascoltando invece è la chitarra, è la mandola. La mandola. Qui siamo già in una... Sempre costruita da Reginaldo. Sì, eh? Sì. Questo è uno strumento apertamente di linea artigiana. Quello che viene fuori da questi quaderni fatti sotto dettatura dello zio Bruno è la quantità di musica e la varietà che veniva fatta. Tutti danno come segnale, primo segnale, la fine della Prima Guerra Mondiale e poi definitivamente, naturalmente, la fine della Seconda Guerra Mondiale. Sono strumenti che sono arrivati, naturalmente molto portati dagli emigranti. Quella cosa che dicevamo l'altra volta a proposito degli italiani nel sud del Brasile, anche qui, negli Stati Uniti, molti di questi strumenti si sono trovati più lì che qui. Il solito problema dell'oggetto della tradizione come simbolo rassicurante o come oggetto rassicurante. Qui un insieme di chitarra, mandolino e violino che abbiamo sempre estratto dal filmato realizzato a Diego Carpitella. Ecco, vorrei dire una cosa, cioè, che noi non vediamo purtroppo questa cosa, però c'è un suonatore di chitarra che uno appena lo guarda vede che c'è qualcosa che è fuori dal modo come lo suonano gli altri, e da come è poggiata la spalla e il braccio si vede uno che è stato molti anni in America e suona la chitarra un po' alla cowboy. È una cosa che si vede immediatamente, uno che ha subito questa influenza corporale e gestuale del suonare la chitarra. È una persona molto piuttosto adulta, però si vede subito questo segnale corporeo a proposito, dicevamo prima, della del legame. Sì. Certo. Ascoltiamone un frammento in primo piano. Sono ricerche di 2 anni fa e che viene spontaneo a questo punto chiedere, professore, è arrivato forse il momento ormai per farlo, qual è lo stato attuale delle ricerche etnomusicologiche? Beh, questo purtroppo è un difetto anche delle università italiane, devo dire subito, in quanto non esiste un bollettino sulle ricerche che vengono fatte in generale sia a livello accademico sia non a livello accademico. In questo senso c'è la Società Italiana di Etnomusicologia che ha fatto diverse cose, tra cui la rivista Cultura Musicale che abbiamo citato nel corso delle scorse trasmissioni, ma purtroppo non esiste un bollettino con le ricerche in questo senso. La rivista musicale italiana, per merito proprio di Rostirolla, la nuova rivista musicale italiana, ha fatto un inventario delle tesi di laurea in musicologia e quindi anche in etnomusicologia, ma che ci sia un inventario delle ricerche questo non è possibile. Posso dire che a Bologna ci sono diverse ricerche con particolare interesse verso l'organologia, che in Sicilia ci sono delle ricerche per il folk studio, soprattutto sulla vocalità e sulla tradizione polivocale in Sicilia. A Roma sono indirizzati verso la problematica del rapporto parola-suono, che è stato oggetto di ricerca, e adesso ci si avvia una programmazione per l'utilizzazione, una maggiore sistematica utilizzazione del computer in etnomusicologia. Vi ricordo che parlando tra di noi possiamo rendere partecipi gli ascoltatori. E qualche volta uno dice: ma cosa c'è da dire? Cioè, si fa, è una domanda retorica. Di più in etnomusicologia, in un momento in cui andare a raccogliere è veramente una cosa molto complessa. Ecco, voglio dire che in questo senso, non per essere alla page, ma veramente un uso di questi sistemi veloci dell'informatica possono portare ad un maggiore approfondimento dei nessi di un patrimonio e quindi ad una maggiore conoscenza che prima non era possibile. No, ci sono anche sempre le sudate carte di Leopardi, ma la rapidità del computer sta in questa rapidità dei dati che puoi sintetizzare. In Italia in questo senso c'è veramente da fare. Oggi come oggi, anche se si tratta di scienze umane, non esiste una formula che ti sappia dare gli elementi di articolazione di questa tradizione dialettale musicale come quella italiana. Quindi poi intorno a questi ci sono, dei gruppi di ricerca a Ferrara, ci sono dei gruppi di ricerca in Sardegna, non c'è un'informazione sistematica sullo stato di ricerca. Per quello che riguarda poi l'aspetto che ha una sua importanza didattico-pedagogico, vorrei dire che la riforma dei conservatori, come è noto, sono ancora 25-30 anni, sì, e non si fa mai. E quindi lì era stata inserita, neanche con questo nome etnomusicologico che qualche volta sembra un po' acrobatico, ma con il termine culture musicali. Non c'è stata la riforma dei conservatori. Sì. Per quanto riguarda la situazione accademica, ci sono due cattedre a Roma e a Bologna, e poi c'è un'associazione a Potenza, la nuova Università della Basilicata, più degli insegnamenti che sono formalmente di storia della musica, però viene dato grande apertura all'etnomusicologia, che sono rispettivamente a Udine e a Catania. Poi il panorama di tutto quello che sono i diversi ruoli da mansionario dell'Accademia, cioè dottorato di ricerca, ricercatori e via dicendo, è ancora piuttosto scarso, e quindi in parte ancora gioca molto sulla passione personale, che dove può entrare. Molti di questi giovani che si occupano di etnomusicologia insegnano anche storia della musica nei conservatori, fortunatamente, però sulla specificità ancora c'è un po' di strada da fare. Qual è la situazione degli archivi per una consultazione? Adesso attualmente lei riveste un importante ruolo in quelli che si chiamavano gli archivi di cioè in quelli che ora si chiamano gli archivi di etnomusicologia, e sono dell'ex Centro Studi per la Musica Popolare. Sì, questo è il Centro Popolare, che era dell'Accademia di Santa Cecilia, che si è in questa nuova denominazione. Gli archivi più densi e importanti sono a Roma. Sì. E sono questi archivi di etnomusicologia, vorrà dire del Centro Nazionale Studi Musica Popolare dell'Accademia di Santa Cecilia, l'archivio etnico-linguistico musicale della Discoteca di Stato, messi insieme, insomma, fanno una cosa come 20-25.000 registrazioni, sono moltissimi. E gli archivi del Centro Etnografico di Ferrara, gli archivi del Folk Studio di Palermo. È una documentazione che arriva a circa 30-35.000 registrazioni, di cui anche l'Istituto De Martino ha un ruolo. È l'Istituto De Martino, di cui l'altra volta non abbiamo avuto il tempo, parlando del revival, di parlarne, proprio perché non c'era, e mi sembra questa un'ottima occasione, parlando degli archivi, di ricordare questi archivi dell'Istituto De Martino, che raccolgono sia della musica tradizionale, soprattutto del nord, e poi anche moltissime documentazioni di parlato, che come sappiamo hanno una grande importanza. Anche qui non esiste un bollettino di informazione sullo stato degli archivi. Mi dispiace, non è che uno si debba fare lamentarsi o altro, anche perché io penso che molte cose uno le fa anche al di fuori delle istituzioni, però è una situazione molto delicata che andrebbe più sistematizzata, senza nessuna copertura assistenziale, ma proprio col desiderio di chiarirsi l'idea. Quindi, insomma, tirando un bilancio, quali sono i risultati di questi 40 anni di etnomusicologia italiana? Beh, guardi, da quando era considerato veramente come un fatto, come un garzone che aveva la mania, dei garzoni che avevano la mania di questa musica strana, e che addirittura i presidenti di convegni di musicologia dicevano: ma di che cosa si occupa lei? Come era proprio il preloio. Beh, insomma, avere questi archivi, tra l'altro vorrei dire che gli archivi italiani sono, dal punto di vista della qualità della registrazione, veramente tra i migliori, e questo è il fatto singolare, e il fatto che ci siano 3-4 insegnamenti universitari e che ci siano dei cataloghi, delle collane di pubblicazione, è un salto enorme, però forse alla soglia del 2000... insomma, forse si dovrebbe fare qualcosa di più, proprio per chiarirsi le idee, a parte le ambizioni sociali. Tra gli archivi, non so se è sfuggito a me, sembra che non abbiamo menzionato la discoteca di Stato. Archivio etnico-linguistico musicale, sì, che è giustamente, no, è della discoteca di Stato. Nacque circa 20 anni fa e lo scopo era di essere non soltanto di raccolta musicale, ma anche di linguistica. Sì. Certo, sono materiali discontinui, sì. Ecco perché un lavoro di sistematizzazione, e ripeto, non per essere alla page, per esempio computerizzata, potrebbe colmare la discontinuità di qualità del materiale. Questa discontinuità non soltanto nel senso feticistico di qualità tecnica, ma perché il documento, se è più a maggior lettura o minore lettura, nella logica assume diverso valore. E allora probabilmente un approfondimento con questi sistemi moderni dell'informatica colmerebbero questi squilibri. È finita comunque l'era delle ricerche tradizionali etnomusicologiche? No, perché io poi mi parlavo sul territorio italiano, perché sul territorio non italiano e non europeo, per quanto il transistor sia stato uno dei più grandi roditori della seconda metà del XX secolo, sia stato il roditore, tuttavia c'è ancora moltissimo da prendere. In Italia moltissimo. E sono soltanto in Francia, in Inghilterra e Stati Uniti che sono i paesi che danno più possibilità ai giovani di fare ricerca, in parte la Germania, ma soprattutto Francia, Inghilterra e Stati Uniti. E qui ci sono delle cose, però i sentieri, come non mi ricordo in quale trasmissione abbiamo avuto occasione di parlarne, i sentieri sono quello della tradizione familiare e poi sono dei sentieri in cui bisogna andare come uno che prende una farfalla con una spilla, ecco, proprio estremamente puntuale, molto complesso. Prima forse poteva essere un po' la ricerca sul campo un po' troppo patetica e ideologica, ma adesso è estremamente, che non ci sia più niente da fare, no, vede, uno si muove e trova questo quaderno che è una testimonianza molto importante. Chi lo sa dove ce ne saranno ancora degli altri? Non dimentichi che il nostro è un paese dove improvvisamente, non dico con l'astronave e con l'elicottero, ma con un normale aereo di linea, arriva un musicologo di altri paesi e ti va a prendere dentro alla cantina di un convento dei manoscritti che poi erano sfuggiti. I manoscritti della tradizione orale sono strettamente legati alla vita delle persone, però forse si possono trovare ancora, no, si trovano delle cose. Da queste considerazioni e valutazioni torniamo invece a considerare appunto le ricerche di Carpitella. E tra gli interessi per gli studi demologici serpeggia un filo rosso che troviamo presente sempre negli studi in tanti anni di attività e sul campo e sia negli studi appunto di saggistica, nell'attività saggistica di Carpitella. Il contenuto di questa tematica è riassumibile in un breve enunciato, ossia il primitivo, il mito del primitivo nella musica contemporanea. È un tema che sta molto a cuore al professor Carpitella e che troviamo sviluppato per la prima volta nel 1959 su nuovi argomenti, quindi nel 61 e poi più volte ripreso nei quaderni del maggio del 71 e poi in studi musicali dell'85 e ultimamente la tematica ha trovato una concretizzazione sonora nel 26esimo Festival di Nuova Consonanza a Roma. Ecco, incominciamo, professore, con il delimitare i termini della questione attraverso una brevissima ricognizione storica. Già nel Settecento i compositori incominciano a interessarsi alle culture musicali, diciamo, altre. La cultura turca, per esempio, le turcherie, la marcia alla turca, ricordiamo soltanto un esempio tra tutti, la famosa marcia alla turca di Mozart. Appunto, vi è questo interesse per queste culture altre, ma il tutto diventa una sorta di cliché per appunto molte musiche del XVIII secolo. Mentre molta letteratura dell'epoca a soggetto extraeuropeo riguarda i contenuti, cioè offre dei motivi di riflessione sul valore delle altre culture, la musica ne coglie invece soltanto la patina di superficie, cioè la musica rimane ambiente, episodio, e questo forse perché, e non so se lei è d'accordo, tutte le suggestioni vengono prepotentemente filtrate attraverso un sistema tonale forte e forse ancora non messo in crisi. Queste sue osservazioni Sono veramente un menù scabroso, un menù molto ricco. E, sì. La ringrazio con questa premessa di aver un po' dissodato questa parte di oggi, di questo incontro. Cioè, il rapporto cambia, credo, sostanzialmente nei primi decenni dell'Ottocento, cioè sì, in realtà. Sì. Cioè, forse nella sì. prima metà, al passaggio tra la prima sì. e la seconda metà dell'Ottocento. Sì. Ci sono varie circostanze per questa problematica che è venuta fuori soltanto abbastanza di recente, e questo rientra un po' in quel discorso, scusi se mi ripeto, sul problema degli antropologi e la musica. Anche questa è una costante. Ecco, gli antropologi e la musica, cioè musicisti che siano andati fuori, nelle Indie, nel Nuovo Mondo, in Oriente, e siano andati lì perché volevano sentire la musica di quei posti, non ci sono stati. L'esploratore, la troupe, poteva avere mercanti, militari, funzionari, ma non è che si portava linguisti, come il capitano Cook, che si portava geografi e linguisti, ma non musicisti. Uh-huh. Quindi questo già è molto importante. Quindi i musicisti era o per viaggiatori stranieri che venivano qui o per sentito dire, potevano captare, indubbiamente gli orientali venivano in Occidente e si sentiva qualche musica sì. o qualche trascrizione, ma dico, rispetto alla quantità di documentazione verbale, letteraria di questi mondi, quella musicale era inesistente. Quindi ecco, c'è già un ritardo dell'eco di queste culture, ecco perché il documento è stato... E d'altra parte questi esploratori, antropologi, storici, sì. geografi, eccetera, come al solito trascrivevano le parole, ma non sapevano scrivere la musica, quindi potevano essere Marco Polo. Sì. Sappiamo alcune descrizioni degli strumenti del tempo della Cina, ma come, non sappiamo assolutamente niente. Non so, perché lui non è che aveva uno che gli trascriveva la musica e non aveva naturalmente il fonografo Edison. Quindi indubbiamente il Settecento c'è un saggio, perché lei l'ha citato, in uno dei quaderni del Maggio Fiorentino sì. di Garin. Sì. Su questa infiltrazione nella coscienza, della presa di coscienza settecentesca delle altre culture, e però per quello riguarda la musica i frammenti sono molto pochi, comunque appena arrivarono, appunto, abbiamo già le turcherie, e anche nella fase, per esempio, del ricorrente neo-induismo della cultura europea, si parla della suggestione dei canti, della musica, ma il momento di girare un po' più di massa è quell'ottocentesco, come ha osservato prima lei. Anche se nei primi decenni dell'Ottocento in effetti resta ancora di moda il soggetto operistico, diciamo, orientale, basterebbe sì. ricordare appunto il Turco in Italia, che è del 14, il Maometto sì. II, sì. che è del 20, l'Italiano in Algeria, in Algeri, sì. che è del 1813, opere di Rossini ovviamente, sì. Ali Babà, che è del 33, che è di Cherubini. Però forse nella seconda metà del secolo che l'immagine dell'Oriente viene in qualche modo a mutarsi, e senz'altro forse l'Aida rappresenta certo. uno dei capolavori in questo senso, ma anche come modo proprio di porgersi, di interessarsi sì. a un fenomeno altro. No, io insomma, per quello che riguarda anche questi titoli che sono stati detti e altri, indubbiamente... l'orientalismo, per esempio, anche nella tradizione italiana, si basa proprio, adesso non vorrei essere molto acido, si basa veramente su dei soprammobili, si basa sui soprammobili di una certa cultura, quello lì si è così indiano, si vuole fare indiano, sì. quello è egiziano, quello è nero. Io mi ricordo che da ragazzino, nel clima che ricordavo nella prima trasmissione, sono stato sempre ossessionato dai portaceneri, dove il portacenere erano dei negretti dipinti di nero che ti offrivano il portacenere, questo mi aveva sempre stravolto, perché molto tempo l'Africa forse era portata da quelli che portavano le portaceneri o pulivano le sputacchiere, come nei romanzi della generazione bruciata americana. Quindi però questi luoghi comuni dava luogo a dei piccoli incisi musicali e intervalli dove anche Verdi con quel cromatismo, no? E soprattutto un certo cromatismo che appare sì. nella Enunciazione. Che cos'è il cromatismo? È un desiderio di microtoni, Con matismo portato all'estremo, mi piacciono che ti facciano dare il senso dell'esotico e del diverso. Ma Verdi si era anche documentato, si era molto documentato. Quando... Sì, ma si era documentato e l'aspetto del profilo, diciamo così, se possiamo dire, del profilo melodico, sono rispettate queste melodie, però sono, come giustamente ha prima anche osservato lei, incastonate in una maniera che può appartenere a quello che si dice un esatismo eccitazionale. Sì. Ecco, in questo senso sì, perché d'altra parte la commessa che lui aveva era molto impegnativa, si trattava del largo dell'istmo di Suez, no? Si doveva impegnarsi molto, e effettivamente se ne occupò, e nel disegno melodico c'è un certo rispetto, ma nell'Ottocento non al di fuori veramente di quelli che sono i classici. Sì. Che ci sia proprio dei fatti strutturali, certo, di adempimento nel linguaggio. No, probabilmente io non me lo ricordo adesso, ma mi sembra. Beh, Saint-Saëns, per esempio, soggiornò più volte in Algeria. No, Saint-Saëns, Si affezionò tra l'altro anche molto a quel paese. Infatti, i risultati furono la suite algerina, che del 79, se non erro. Africa, molte marce. E forse anche la scuola russa, su simili basi. Scuola russa sì, i cinque sì. I cinque. Ah, sì, sì. Ecco, io ve lo dicevo, indipendentemente dai cinque, soprattutto in Mussorgsky, lì proprio comincia un assorbimento organico. Sì, sì, certo. Poi se prendiamo Janacek o altri... nella scuola russa, nonostante fosse Rimsky-Korsakov fosse considerato la parte occidente insieme a Tchaikovsky, ma in realtà c'è un'assimilazione del patrimonio molto più profondo di quanto non sia. Certo. Ecco, lasciamoci allora introdurre a questa tematica che, lo diciamo subito ai nostri ascoltatori, interesserà tutta questa seconda parte dell'ultimo incontro con Carpitella, da un breve nastro che abbiamo registrato qualche giorno fa con Roman Vlad. Con amico Carpitella abbiamo spesso collaborato quando io ero direttore artistico del Maggio Musicale Fiorentino, e nel 1971 abbiamo dedicato il 34esimo Maggio Musicale Fiorentino ai rapporti con le tradizioni extraeuropee, che in generale venivano considerate anche come tradizioni extracolte, anche se una definizione che io non accetterei, perché non è che si può parlare della musica cinese, giapponese o delle altre indiane, arabe, come delle tradizioni extracolte. Sono coltissime, anche se corrispondono a dei concetti molto diversi, no? Per cui sarebbe meglio parlare di tradizioni extraeuropee oppure extraoccidentali, ma anche lì il ventaglio che va dal primitivo semplice al primitivo non semplice, al primitivo complesso, è estremamente vasto. Si potrebbe anche parlare, insomma, mi viene in mente proprio adesso, di un primitivo con diversi gradi esponenziali, perché c'è un primitivo primitivo, no? Del tutto primitivo, del tutto originario, del tutto intatto dalla ogni motivo della ragione. Poi c'è un primitivo di secondo grado, come sarebbe appunto il primitivismo, gli elementi primitivi in Debussy o in una sagra di Stravinsky. E qui si tratta soltanto di ipotesi, perché si sa benissimo che i gamelan giavanesi che Debussy ebbe occasione di sentire all'Esposizione Mondiale di Parigi l'hanno influenzato molto. Come su un piano più vicino, si sa che Satie, per esempio, è stato influenzato dalla musica rumena che aveva ascoltato alla stessa occasione. Ci sono tanti motivi rumeni che si trovano poi in alcune composizioni di Satie. Come si sa, qual è stato il rapporto delle scuole nazionali europee dell'Ottocento e del primo Novecento? Primitivo per uno Stockhausen in mantra o per un Debussy è già estremamente diverso, qualche volta riguarda dei procedimenti strutturali, qualche volta invece riguarda delle impostazioni, qualche volta riguarda delle aure, qualche volta può riguardare semplicemente un tipo di approccio alla musica. Insomma, è tutto molto molto molto vasto, estremamente interessante. Bisogna poi parlare di un altro aspetto del fenomeno del primitivo delle tradizioni folcloristiche in rapporto alla musica colta, cioè gli scambi reciproci, gli influssi reciproci tra questi due domini. Ora, abbiamo un monumento storico, forse il maggiore, di una compenetrazione di musiche tradizionali, orali, di musiche anche colte nel canto gregoriano stesso. Il canto gregoriano, che è la base della nostra civiltà, tuttora la base della nostra civiltà, cioè, certamente riassume in sé delle antichissime tradizioni del bacino mediterraneo. E questo rapporto, questo interscambio tra la musica di tradizione orale e la musica colta è continuato fino al nostro secolo, e nell'Ottocento tutta una materia da studiare sarebbero i rapporti tra il melodramma italiano e il canto popolare italiano, tra la elaborazione operistica e il primitivo canto popolare. Spesso questi rapporti sono tali, lo sappiamo bene, che non si sa, certamente, talune melodie, talune canzoni, se sono di origine popolare o viceversa, è il popolo che si è impadronito di musiche composte, non so, da Pergolesi o da Bellini o dallo stesso Donizetti. E questo non soltanto nel campo della musica direttamente, ma anche nel balletto. E basta pensare qual è l'influsso delle tradizioni extraeuropee su un Bejaro, no, così via. Soprattutto nel nostro tempo, quando si è assistito a una saturazione del sistema felicemente e genialmente artificiale e artificioso come quello del temperamento equabile basato sulle 12 note dell'ottava temperata, insomma, è indubbio che con la fine dello sviluppo dell'armonia funzionale basato su questi 12 toni si è ritornati a un uso di elementi che prima erano soltanto proprietà delle tradizioni primitive, sono state conservate e che poi sono state riassunte ulteriormente dalla musica moderna, come quella appunto dei quarti toni, di toni delle note non temperate, note non temperate che poi a un certo momento hanno anche stimolato certe esperienze elettroniche e così via. Insomma, anche qui la casistica è molto vasta. Io ricordo che due anni fa, credo, sono stato invitato a tenere presso l'Istituto di Musica Comparata, la Fondazione Cini a San Giorgio, che riguardava un paragone, una comparazione tra la Sagra della Primavera di Stravinsky e musiche popolari africane. È stato un seminario tenuto su due piani paralleli e poi convergenti. Io parlavo della musica di Stravinsky e c'era un gruppo di senegalesi che parlava e illustrava le musiche, certe musiche africane. Abbiamo visto qual era il grado di convergenza che si stabiliva tra questi due elementi, tra questi due aspetti, tra questi due mondi in apparenza così lontani. Insomma, un grado di convergenza come quello che, tanto per citare un esempio vicino, poi poteva esistere tra la scultura negra e Picasso, no? E le Demoiselles d'Avignon. Tra l'altro qui si tratta anche di una contiguità temporale, storica e cronologica, e certamente tra un influsso anche sull'estetica, sulla poetica di questi artisti. Ora, nessuno, penso, oggi ha l'idea, è più legato all'idea positivistica, che la musica colta, la musica accademica sia ipso facto più esteticamente più valida della musica primitiva. Non è vero, può essere più complessa, può anche accedere a certe regioni alle quali la musica primitiva non accede, ma è forse la musica primitiva che accede più facilmente a certe regioni metafisiche trascendentali che la musica colta poi tenta a conquistarsi, mentre nella musica primitiva c'è qualche cosa che si dona spontaneamente. Era di Stuart di Soldà, ovviamente di brani dagli Stuart di Soldà di Stravinsky, che commenteremo forse poi dopo con il professor Carpitella. Ecco, vorrei soltanto dire una cosa, Roman Blad ha detto appunto di questa collaborazione e di questo, veramente di questo incontro che lui fece quando era direttore artistico del Maggio Musicale Fiorentino negli anni 71-72. Tant'è vero che in questa recente edizione, in questa rubrica nell'ambito del Festival di Nuova Consonanza che c'è stato adesso nel novembre dell'89, così io ho ricordato che i presupposti di questo interesse Oriente, Occidente, eccetera, risalivano come realizzazioni di spettacoli e concerti al tempo che Roman Blad era direttore artistico a Firenze. Vorrei dire una cosa a proposito che prima si parlava di questo filo, i miei interessi dal 59, per dire soltanto da 31 anni fa, e fu un numero unico che mi stimolò di nuovi argomenti. La rivista allora era diretta da Moravia e da Carocci, e fu un numero unico intitolato a Mito e Civiltà Moderna, e c'era articoli di De Martino, Pettazzoni, Lanternari, Cantoni, Rossi, e in mezzo ci fu l'idea, sempre da De Martino, di mettere anche la musica, i primitivi della musica. E fu un numero, era nuovo nell'ambito, mentre in Francia Scheffner aveva pubblicato negli anni 50 un interessante volume dei rapporti della musica moderna e i rapporti con le musiche di tradizione extraeuropea, in Italia era veramente un numero unico, e io naturalmente fu un argomento che mi ha sempre entusiasmato e che ho continuato nel tempo, ma qualcuno mi dice sempre perché forse questi saggi si potrebbero riunire in un libro, ma io chi lo sa, sono un po' pigro in questo senso. In fondo sono degli aggiornamenti continui dello stesso tema. Sì. Ecco, ma arriviamo allora a uno dei punti fermi da cui far partire, da cui far storicamente riferimento per un'effettiva, compiuta e consapevole utilizzazione dell'extra occidentale nella musica occidentale, l'impressionismo. L'impressionismo, e quindi Debussy. Certo, e voglio dire anche perché questo interesse del 59 poi fu alimentato alcuni anni dopo da un ciclo di trasmissioni che io feci per Radio 3, e con lo stesso titolo, in cui potei fare ascoltare le musiche, e veramente è stato, mi sembra che allora si occupasse della parte musicale, in particolare Guido Turchi. Uno dei capitoli chiave di questo problema è quello che può dirsi il funzionalismo esotico dell'impressionismo, ci sono alcuni brani per pianoforte di Debussy, in particolare Pagode, che è una verifica come le strutture di altre culture musicali non sono né citazionali né formali, ma approfondiscono la struttura stessa della composizione. mi permetto di leggere un brevissimo brano relativo a Pagode. La rievocazione Gamelin si ritrova nell'impiego al pianoforte di una percussione tematica di un contrappunto ritmico. Quanto all'orientalismo, è chiaramente rivelato dall'impiego di quattro diverse scale pentatoniche, le quali si presentano in diverso modo intrecciati. Quindi l'impiego di scale pentatoniche intrecciati è già una dimensione di struttura che altera il sistema dei rapporti dei gradi della tonalità. Su queste quattro scale rappresentano quattro soggetti. E Debussy, quasi per voler riprodurre la complessità ritmica delle orchestre Gamelin, applica un trattamento che potrebbe dirsi già seriale, sia nel senso melodico che armonico. Debussy aveva ascoltato le orchestre Gamelin all'Esposizione Universale di Parigi e ne era rimasto sconvolto sia dalle scale, ma le scale era già stata avviata a questo tipo di scale da Mussorgsky, ma poi era stato soprattutto dalla polifonia. Era la polifonia che l'aveva impressionato, la polifonia dei Gamelin. Ma questo perché fino allora si riteneva che la polifonia fosse un fenomeno esclusivamente occidentale, anche se soltanto 50 anni dopo nella storia della musicologia è stata documentata sistematicamente da Schneider una polifonia extra-eurocolta. E quindi rimuo impressionato dal timbro dei Gamelin, dalla diversa scala e dall'intreccio della polifonia. In questo senso l'assimilazione investe tutta la struttura, la tonalità temperata, il timbro, la forma che è una forma aperta, vabbè, ma questo per Debussy è per impressionismo abbastanza frequente. Allora in questo senso si può parlare proprio di una funzionalità dell'assimilazione di altre culture. Cerchiamo allora di mettere, lei l'ha fatto già, cerchiamo di puntualizzare forse un po' meglio quali sono i tratti distintivi in Debussy che poi si riflettono ovviamente nella sua musica, i tratti distintivi di questo interesse per le altre culture. In Debussy in fondo appunto salta l'impianto armonico tradizionale, si elide lo sviluppo tematico, che è una caratteristica poi anche di altri autori, ovviamente dello stesso periodo, e si evidenzia l'iterazione. Sono ecco. Tutti quanti elementi che avevano affascinato anche compositori dello stesso periodo, cioè queste musiche altre, senza sviluppo, senza ponte, senza modulazione. Cosiddetta modulazione, cioè si ricorda che una volta, scusi se mi interrompo, cioè si ricorda che è venuta spesso durante queste conversazioni la definizione iterazione microvariante. Sì. Ecco, anche qui la musica è stata basata sull'iterazione, perché se nel tempo, se non ci fosse l'iterazione, fosse tanto continuo, i raccordi sarebbero estremamente complessi. Ci sono i sostenitori che non debba esserci nessuna iterazione. Ma qui l'iterazione è proprio in un senso di verticalità non modulante, però sempre microvariata. E questo, come giustamente ha detto lei, è stato un motivo di fascino e di suggestione per Debussy. Ma credo che un altro motivo di riflessione sia stato proprio il riconsiderare il valore della melodia. Sì. Perché in molte culture la melodia, diciamo che è molto ridimensionato come momento. Certo. In questo senso, cioè di riconsiderare il valore della melodia. Certo, ma è questo perché... Come ridimensionare, insomma. Sì, ridimensionare il valore della melodia, evidentemente. Non lo aggiunge, è proprio un ridimensionamento. è un valore della melodia che non diventa questa cappa esclusiva. Diventa per alcuni una cappa. No, non è una cappa esclusiva, è uno degli elementi dell'impianto. Certo. Senta, primitivo e arcaico. Vediamo di definire questo binomio che in fondo poi generò anche degli equivoci piuttosto pesanti, penso appunto alla generazione degli 80. Questo è un equivoco che è stato oggetto di interesse in questi ultimi anni, anche di interessi semiologici, preoccupati il più possibile di una definizione neutrale, che è uno proprio degli aspetti della semiologia. Indubbiamente la linea di demarcazione è fino a un certo punto, fino a un certo punto è stata impossibile. Anzitutto perché con primitivo si intende spesso una documentazione sincrona, coeva. Cioè noi possiamo andare in altre culture che noi riteniamo, virgolette, primitive rispetto alla nostra e possiamo anche ascoltarlo. C'era chi l'ascoltava senza l'Edison, chi lo consulta con l'Edison e via dicendo, la storia della documentazione. Infatti nel mito del primitivo bisogna anche considerare chi l'ha visto in uno spettacolo, chi l'ha sentito dire, chi l'ha visto trascritto, chi l'ha sentito direttamente, ci sono varie circostanze dell'ascolto. L'arcaico è veramente una cosa assolutamente che ha un margine, soprattutto l'arcaico che non ha la scrittura, non ha nessun punto di riferimento ed è veramente un problema di immaginarlo per molti aspetti. Esiste una letteratura amplissima sul problema del mito e la musica. C'è questa famosa definizione di Lévi-Strauss che dice l'interesse per il mito non è come gli uomini pensano il mito, ma come il mito si è formato dentro l'uomo. Nel senso, unito poi alla complessità della musica, cioè di una immaginazione sonora, effettivamente si può capire, dato che abbiamo citato Lévi-Strauss, come siano stati fatti diversi legami tra il mito e la musica. Lì dove c'è una documentazione scritta, come potevano pensare, ha detto la generazione dei musicisti dell'Ottanta, pensavano, ma non soltanto loro, anche tutto un movimento folclorico in Europa, pensava che l'arcaico primitivo fosse il duecentesco, il trecentesco, e che poi le altre fossero, ma perché loro non sapevano cos'era l'oralità nel 200 e 300, e quindi pensavano, d'altra parte, questo è una terminologia che nella pittura è rimasta, no, si dicono i primitivi sono i pittori del 200, cioè nel lessico della storia dell'arte primitivo vuol dire pittori del 200, 300, mentre per noi primitivo evidentemente significa un'altra cosa. Allora il problema tra l'arcaico e il primitivo è una sottile differenza, salvo che uno dice le coefore, l'Edipus Rex mette titoli dell'antichità greco-romana e allora gli mette una definizione per cui sei orientato verso un primitivo, poi lessicale, perché poi tra l'altro noi di queste culture greco-romane non sappiamo assolutamente quale fosse la musica, perché i pochi frammenti, i trattati di grammatica non danno nessuno. Però è interessante, nella storia della critica e del ripensamento, per esempio, tutti sono d'accordo che l'Oedipus Rex sia la fase del neoclassicismo. Però poi alcuni parlano, nell'ambito di questo neoclassicismo, dove c'entra poi Pulcinella e via dicendo, parlano anche dell'histoire du soldat. E invece lì, che è un momento di transizione, in realtà, se uno sente l'histoire du soldat, come adesso abbiamo sentito qualche citazione prima e dopo che parlasse Romain Blad, in realtà appartiene ad un tipo di tecnica che è della tradizione popolare, dei circhi poveri, del teatro di strada, dello spettacolo di strada, che era formato spesso, anche nei paesi, in Russia, dal violino e dal tamburo. E poi c'era una ragazza che danzava. È un po' come anche noi, i suonatori ambulanti nell'Ottocento, quelli che erano schedati dalla polizia borbonica, erano formati da un suonatore di lira, uno di zampogna e una bambina piccola che veniva pagata ai genitori per fare le tournée e ballava, non so, per le piazze di Napoli. C'era la stessa tradizione col violino e col tamburello. Quindi l'histoire du soldat, che apparentemente sembra formalizzato in un classico, in realtà appartiene a una tradizione, virgolette, fauve, diciamo così. Ecco perché la linea di definizione, non avendo noi nessuna definizione tra mondo arcaico, cosa abbiamo detto? Arcaico. E lì dove comincia la scrittura dobbiamo mettere tutto tra virgolette, perché sappiamo la mediazione della scrittura. Poi, della cultura greca e romana, noi non sappiamo assolutamente niente. Fermiamoci un attimo allora sull'impressionismo e su Debussy. Il professor Capirella nominava poc'anzi Pagode come uno dei brani importanti in cui si esplica questa contaminazione, usiamo questo termine anche se un po' ambiguo, tra colto e primitivo. Ascoltiamo allora Pagode nella interpretazione di Sviatoslav Richter. Thank you. era Pagode di Claude Debussy, un lavoro del 1903 che abbiamo ascoltato nell'interpretazione del pianista Sviatoslav Richter. Intanto ricordo agli ascoltatori che sono le 16:27 e sono all'ascolto di Antologia, l'ultimo appuntamento che Antologia sta dedicando al professor Diego Carpitella, che è qui con noi. Ecco, volevo aggiungere a quelle osservazioni che avevamo fatto prima dell'esecuzione di Pagode che bisogna anche osservare in questo brano di Debussy una estrema libertà ritmica, accentuative, poi vi sono una serie di successioni di accordi, seconde, quarte, quinte, dei continui glissandi, che sono tanti altri espedienti per fuggire il senso della tonalità temperata, e poi ci sono naturalmente l'imitazione, e tutto questo è fatto per fare un'imitazione di strumenti idiofoni e alcune anche non a intonazione determinata, campane, eccetera, proprio per rendere un alone sonoro degli strumenti gamelan. Debussy precisa con cura l'uso dei fortissimi e del pedale, in maniera che ci sia intorno al suono una alea, e l'alea, si sa, è uno degli espedienti, in maniera che non ci sia la rigidità del temperamento dell'intonazione. E l'impiego che abbiamo già detto noi delle scale pentatoniche, abbiamo visto che sono messe quasi in una forma seriale, sono intrecciate in quella che sarà, le quattro scale pentatoniche sono intrecciate come se fossero una seriale. Quali tipi di musica ascoltò Parigi all'esposizione del 1889, no? Sì. 89 a Parigi. È difficile dire quale complesso gamelan. Indubbiamente saranno stati dei gamelan probabilmente più lenti e più posati di quelli che abbiamo ascoltato al Festival di Nuova Consonanza a novembre, ma non sappiamo il livello, non sappiamo se era un gamelan urbano di città, perché lì cambia, perché i gamelan sono come dei tappeti, a seconda della tradizione cambia l'impostazione della sonorità, però poi il fondo e in fondo la scala dei raga che rimane sempre abbastanza costante. Probabilmente, come appunto ricordavo quando scrissi questa cosa, Debussy appartenessero al terzo livello, vale a dire l'orchestra di gamelan, diciamo così, già semicolte. L'ho scritto a cui fa riferimento Diego Carpitella in questo momento è l'articolo che apparve nel 1961 sul terzo programma, sul primo numero di terzo programma. Ecco, il problema fondamentale entro il quale ci stiamo muovendo da un po', almeno da una mezz'oretta, è la contaminazione in fondo tra influenze reciproche, tra colto e popolare. Ecco, a questo punto forse l'opinione di un musicologo sarebbe necessaria, cioè per vedere dove si rintracciano con certezza questi scambi, o meglio dove è possibile rilevare il dato popolare arcaico o primitivo in strutture colte. Ecco, il musicologo in questione è il professor Paolo Emilio Carapezza, sì, che ha registrato alla sede RAI di Palermo questo contributo alla nostra trasmissione e che è una testimonianza, anche se breve e parziale, di un settore di ricerca estremamente interessante. Ecco, vorrei dire che queste ricerche che ha fatto e pubblicate anche Paolo Emilio Carapezza è interessante perché in alcuni momenti c'è un rovesciamento della prospettiva storica, e c'è innanzitutto, prima si riteneva che a livello popolare non ci fosse tradizione polifonica olivocale in Sicilia, poi è stata scoperta e si riteneva che fossero tutte di influenza chiesastica, fortemente chiesastica, dovute anche ai cori delle confraternite e in parte ai canti del Venerdì Santo. Adesso, secondo alcune ricerche filologiche estremamente rigorose fatte da Paolo Emilio Carapezza e dalla sua scuola, c'è quasi un rovesciamento, per cui la polifonia culta sembra avere delle radici profonde in quella popolare, non al contrario. Adesso Paolo Emilio, lo so, perché parlerà di questo canto del Favara che lui ha trovato un esempio tra gli altri esempi. Che farà e che sì, il professor Capitella ancora non ha ascoltato il nastro, sì, quindi lo ascoltiamo insieme, sì, per la prima volta. studiando la musica della nostra civiltà, dall'antichità classica a oggi, e vivendo in Sicilia, al centro del Mediterraneo, dove la nostra civiltà europea è radicata, la mia esperienza del folklore e dei suoi rapporti con la dottrina nell'arco di quasi 3000 anni, dai poemi omerici a oggi, non mi consente di accettare la concezione che è imperversa da molti decenni che il folklore sia la cultura delle classi subalterne. Ancora una volta mi pare che abbia invece ragione l'etimologia. Folklore in inglese significa sapienza del popolo. Aristotele definisce l'uomo come animale sociale dotato di logos, cioè di suono interiore intenzionato. In greco antico, logos significava discorso di parole sonoramente realizzato. La poesia e la musica, oggi distinte, allora coincidevano. La sapienza specifica dell'uomo è quindi una sapienza sonora, e il folklore musicale è natura specifica di un popolo o addirittura di un insieme di popoli. Il folklore, specialmente musicale, è natura umana, quindi fondamento di ogni cultura. I grandi boschi della musica colta crescevano sul terreno del folklore musicale. I grandi alberi, anche i più complessi, duravano una, due, tre generazioni umane, ma l'humus della sapienza musicale perdurava sostanzialmente identico. Ora voglio mostrarvi alcuni esempi concreti di ciò che ho detto. Pietro Vinci, siciliano di Nicosia, uno dei più grandi compositori del XVI secolo, contemporaneo di Palestrina, usò spesso il folklore musicale per le sue complesse polifonie. Ho scelto il Ricercare II, che uscì postumo nel 1591. Questo Ricercare II è costruito su due soggetti, su due melodie che risuonano spesso assieme. Bene, queste due melodie le ho ritrovate associate dopo ben più di 400 anni, perché Pietro Vinci muore nel 1584 e le melodie che egli utilizza, Favara le raccoglie verso la fine del secolo scorso, tra la fine del secolo scorso e i primi anni del nostro secolo. Favara li registra come canto di bambini di maggio e li raccoglie a Racalmuto, il paese di Sciascia. E ho qui una bambina che sa cantare ancora queste antiche melodie. Allora prego Mariangela di cantarmi il canto dei bambini di maggio di Racalmuto. Di trapana faccia o Maria di Gesù, un coduli marinari la purtaru. Li muna c'è di subito scinneru, lu velu ed a Maria c'è rigalaru. Maria c'è rispunniu su talu velu, figli vibini di quei minni vaiu. E minni vaiu ali finestri in cielo, un nielu paradiso e tutto loro. E ora la seconda melodia. Tinghi tinghi la campanedda, vanno a nanno li virgineddi, vanno a nanno con Maria, vanno dicendo la litania. Ecco, ora io vi farò sentire a pianoforte il Ricercare di Pietro Vinci. Sentite all'inizio i due soggetti come siano fortemente stilizzati, mentre alla fine ritorneranno proprio come se la natura si vedesse sotto la costruzione culturale, specialmente il secondo motivo, quello della campanella. Ecco i due soggetti di Pietro Vinci. Secondo esempio è quello di un altro compositore siciliano, Erasmo Marotta, che nell'anno 1635, mentre era padre della Compagnia di Gesù in Casa Professa, pubblica a Palermo un voluminosissimo libro di mottetti, tra cui una Santa Maria sopra un'aria siciliana. Quando io trascrissi in partitura questa composizione dalle antiche stampe, man mano che andavo avanti rimanevo come stupefatto, perché mi sembrava di conoscere questa musica che pure sorgeva per la prima volta in partitura sotto i miei occhi, finché mi ricordai che era proprio basata la composizione di Marotta, e questa era appunto l'aria siciliana, sopra il canto che nelle Alte Madonie, nella mia regione, si usava fin quando io ero bambino e adolescente per travasare il mosto da latina e rimetterlo nel palmento dove fermentasse. Fui fortunato e trovai il figlio del capo dei palmentieri della mia casa paterna, che sebbene più che sessantenne ricordava benissimo ancora la antica aria che si usava per la tramuta del mosto. Bene, la composizione di Marotta, scritta nel 1635, quindi più di 350 anni fa, utilizza il primo emistichio di questa semplice melodia, per la prima parte e il secondo emistichio, la seconda metà del versetto, per la seconda parte. Ora noi sentiamo, registrate in cassette, prima la cassetta con il canto della tramuta del mosto, cantato da Gandolfo Troina di Nociazzi, che purtroppo è morto una settimana fa, e a lui dedico questo mio intervento. Namo de Dea e la Madonna, la Santissima Trinità, e lo Padre dello mondo, e San Francesco, o Salvatore, se te ne avemo Immacolata. Come vedete, invece di dire i numeri, venivano proclamati i nomi dei santi corrispondenti al giorno del calendario. Bene, la prima parte della composizione di Marotta, quindi subito appena comincia, è basata sulla prima metà di ciascuno di questi versetti, mentre la seconda parte, dove noi interromperemo poco prima della interruzione del nostro ascolto, è basata sulla seconda metà di ciascuno di questi versetti. Caratteristiche interne di questa melodia ce la fanno ritenere di antichità remotissima, probabilmente d'età greca. Ora ascoltiamo il mottetto di Erasmo Marotta. Chiedo scusa perché la registrazione magnetica non era di buona qualità. Cantavano Picci Ferrari e Miti Amari del Centro di Musica Antica Antonio il Verso di Palermo. Quest'altro esempio è ancora più impressionante. È una melodia la cui struttura fondamentalmente identica ci rimane attestata, e stavolta attraverso tradizioni scritte, sebbene direttamente desunte da tradizioni orali, a partire dall'età di Euripide e fino ai nostri giorni. Si tratta di un modulo melodico che nel 600 chiamavano per antonomasia la siciliana. Alberto Favara alla fine del secolo scorso lo chiama la furnarisca o la carinisa. E lo troviamo per la prima volta nel frammento dell'antistrofe del primo stasimo dell'Oreste di Euripide, in un papiro che risale all'età di Euripide e che quindi potrebbe ridarci la melodia segnata da Euripide stesso. Sentiamo il nastro. Questo modulo melodico trapassa attraverso il Medioevo, e ce lo attestano melodie raccolte da Pirrotta e da Gallo, attraverso il Rinascimento, lo stesso Erasmo Marotta vi basa un madrigale che intitola Sopra l'aria del passo e mezzo siciliano, l'età barocca, alcuni canti di Sigismondo d'India del 1609, è un canto espressamente intitolato La Siciliana di Simone Coia del 1675, fino anche nel Settecento, quando Domenico Scarlatti su questo modulo costruisce una intera sonata. Della sonata di Scarlatti basata su questo modulo. Seconda parte della sonata K233, secondo la catalogazione di Kirkpatrick, ne abbiamo appunto ascoltato la seconda parte nell'esecuzione, un estratto dalla seconda parte, essendo una sonata piuttosto lunga, nell'esecuzione del clavicembalista Scott Ross. una sonata che abbiamo messo appunto sì. in appendice all'intervento molto interessante, vero professor Carpidera? Sì, veramente questi Carapezza. Studi di Paolo Emilio sono formidabili, proprio noi avremo, che si andrà configurando una nuova storia della musica in Sicilia, e questi nessi e questi documentati che ha trovato proprio ricreano un'altra interpretazione della storia della musica in generale anche italiana. Ecco, su un compositore e sul suo primitivismo, almeno nella prima fase della sua stagione creativa, sono tutti d'accordo. È ovvio che si tratta di Stravinsky e della Sagra della Primavera. Ora, è interessante capire, e non soltanto della Sagra della Primavera ovviamente, anche di altri lavori che appartengono a quel periodo. Ora, è interessante capire in cosa consiste analiticamente questo primitivismo della Sagra. Guardi, è inutile dire, questa è una cosa ormai acquisita da tutto, che il Sacre du Printemps rappresenta il simbolo di quello che si chiama il fauvismo in musica. Io credo che non sarebbe neanche il tempo, il luogo sì, ma il tempo per poter parlare di questo. Bene, dobbiamo accennare. Ci sono in Stravinsky questo rapporto con la musica di tradizione orale, ecco, quello che viene chiamato tutto ciò che è naif, a varie, non è a varie dimensioni. Stravinsky viene da Rimskij-Korsakov, e quindi la brillantezza dell'uso della tradizione popolare in un'orchestrazione alla Rimskij-Korsakov si vede già nell'Uccello di Fuoco, in Petrusca e via dicendo, e lì siamo, non siamo già più nel citazionismo, perché tutti i colori dell'orchestra di Rimskij-Korsakov creano veramente un tessuto di fondo del quadro che ha già quelli che sono considerati i colori e quindi i timbri e quindi anche i rapporti sonori, armonici, melodici di una tradizione folclorica russa. Questo è molto divertente perché Rimskij-Korsakov e Tchaikovsky, Rimskij-Korsakov già era a cavallo tra quelli che erano gli occidentali e i russi, eppure però col tempo che passa l'impronta è russo. Chi conosce bene Rimskij-Korsakov può capire Stravinsky da dove viene. Questa è una prima parte che potrebbe essere quasi citazionale. Poi si arriva a Petrusca, c'è già un assorbimento profondo, c'è quello che è un villaggio nella memoria. Stravinsky ha un villaggio nella memoria, non ha mai dichiarato le sue fonti, ma poi non c'è neanche bisogno che le dichiarasse, cosiddette filologiche delle sue fonti di tradizione popolare. Dice: quando ero bambino ascoltavo sempre questi canti, andavo nelle feste e sentivo questi canti, mi sono rimasti sempre nella memoria, mi sono rimasti proprio un villaggio nella memoria che è rimasto sempre in Stravinsky, però veramente ha rinnegato sempre di voler essere un musicista folclorista. Era un villaggio nella memoria, non era il folclorismo. Quando c'è il momento, la chiave, la Sagra della Primavera non nasce da un naif così spontaneo, istintivo, niente di tutto questo, nasce a Parigi quando c'è Picasso, quando c'è Brancusi, quando Parigi è il centro dell'arte nera. Lui stesso andava vestito come Picasso, anche andavano vestiti con ammennicole e decorazioni che venivano ormai da Parigi dagli antiquari africani. C'era un'influenza fortissima della musica africana, dove l'arte africana era un espediente per fuggire dai parametri di una arte colta e quindi anche dalla musica. Ragtime di Stravinsky, come ragtime di Hindemith, che ne so, sono tutti sistemi di fuga dal sistema non soltanto temperato dalla concezione formale della musica. Quello che impressiona nella Sagra della Primavera, a parte c'è questa che è l'iterazione microvariata e che nelle sacre è veramente importante, le sacre tutti lo sappiamo è stata poi usata come balletto e Stravinsky non è stato mai contento nella realizzazione coreografica e probabilmente una delle realizzazioni coreografiche più vicine forse è Béjart, non so però ai tempi quando fu realizzato le sacre, e quindi c'entra il corpo. Risiamo a questo tema, musica, corpo, il balletto e tutto questo dialogo. Nelle sacre quello che è veramente, insomma, dico la parola può essere pure veramente impressionante, E noi che abbiamo avuto occasione nel corso di questi dialoghi di parlare degli stati di trance, di possessione, sono emersi due momenti nello stato, in questi stati, quando abbiamo parlato di Moss, di Rouget, di Tarantino, eccetera. Cioè, da una parte l'iterazione canonica, la ripetizione come un momento rassicurante, occlusione della coscienza. Abbiamo ascoltato qualche volta dei lamenti, anche in quel caso ho citato Stravinsky che era in Italia nel 1952, volle ascoltare queste lamentazioni funebri della Basilicata, mentre lui stava, aveva già scritto I treni. C'è questa parte di ossessività, di iterazione come occlusione della coscienza e poi ogni tanto l'esplosione parossistica e poi ritorna la monotonia dell'iterazione ritmica. E veramente questa è una cosa su cui io non... Stravinsky dice pure nel suo Villaggio della Memoria di aver ascoltato anche le lamentazioni funebri, ma questo non c'entra con le sagre, ma è questo momento che corrisponde veramente a così come è stata verificata a livelli molto sottili e raffinati dei cosiddetti stati alterati di coscienza, in Stravinsky la trova. E non è che uno va lì e ascolta le sacre avendo dentro un modello di interpretazione in questo senso. Basta sentire un frammento di un quadro delle sacre e si notano questi due momenti che sono ricorrenti in tutte le questioni delle musiche rituali. Un villaggio nella memoria l'ha ascoltato, non so rispondere. Anch'io che mi sono occupato di tanto tempo, a questo punto forse non ha neanche importanza storicamente come è andata. Fatto sta che è una constatazione che è così. Quindi, riassumendo, Stravinsky coglie l'essenza del rito, cioè questa dualità, la sua ambiguità esprimibile appunto in esplosione e controllo liturgico. Sì. E li fonde insieme questi due elementi. Sì. Quindi non soltanto in un'alternanza come in realtà si trovano nelle tradizioni popolari, nel rito, ma ne fa una sintesi. Sì. E questo è il carattere primitivo. Il fauvismo di Stravinsky, il nocciolo, ecco perché non è un luogo comune citare le sacre. Anche nelle nozze questo problema dell'iterazione e dell'esplosione è uguale. Anche queste sono due cose esemplari. Allora, ascoltiamo un frammento dalla Sagra della Primavera di Stravinsky, un punto in cui è presente con maggiore evidenza, è presente tutta quanta questa l'opera, sintesi, ovviamente, ma questa sintesi è più evidente forse. La danza degli adolescenti, l'ascoltiamo nell'interpretazione della New York Philharmonic Orchestra, diretta da Pierre Boulez. Thank you. sempre un delitto sfumare sì. la saga della primavera, ma purtroppo non abbiamo sì. veramente il tempo di ascoltarla. Ripetevo questa cosa del certo, la Parigi del 1918, quando ci fu, cioè la Parigi di Stravinsky, della Sacre, c'erano diversi cavò, diversi club, era pieno di africani. Non è citato esplicitamente in nessun posto, ma io non escluderei che Stravinsky abbia anche visto, ma non perché c'è bisogno di una documentazione veristica, realistica, però veramente è impressionante, pone anche il problema del fauvismo come categoria a livello proprio espressionistico, metafisico, se una categoria oltre a quello che è una constatazione storica esistenziale, insomma un discorso complicato. Certo. Anche nelle nozze c'è questa presenza dell'elemento sì. rituale, in sì. altri termini, ma è forte. E anche questo è tutto quello che riguarda, per esempio, adesso io non mi ricordo quale parte viene citata qui, però c'è questa parte tutta dei saluti della sposa, tutta la trinodia della sposa. Io mi ricordo alcuni anni fa ho avuto la possibilità in Bessarabia di ascoltare un rito di nozze e c'erano questi canti dell'abbandono della casa della figlia e che rientravano in questa tradizione delle nozze. Poi in più nelle nozze c'è questo uso di strumenti, appunto campane, così, che creano questa sonorità, anche questo che fa pensare a delle sonorità. Purtroppo ritorna questo concetto neo-induistico, cioè Bali, Java, sì. Gamelan, ma sono ripensati e risentiti come strumenti che non potevano dar luogo ad ambiguità, contraddizioni strumentali della musica colta. Anche questo rientra in una concezione di concepire questa cultura, una modalità rituale di tipo della tradizione dell'Europa agricola, unita a queste sonorità che sono fuori da una tradizione dell'Europa occidentale. Come nella sagra, comunque anche nelle nozze, il ritmo è l'elemento fondamentale, sì. soltanto che ha una diversa funzione. Nella sagra ha carattere dissociativo, mentre invece nelle nozze ha un carattere sì. più sì, regolatore. Sì, regolatore, sì, cioè canonico, rituale. Allora, ascoltiamo un frammento dalle nozze, la parte iniziale, nella interpretazione dell'Orchestra del Teatro Nazionale dell'Opera di Parigi, diretta sempre da Pierre Boulez. A parte che qui si nota anche quella interazione, questa ossessività che è un'interazione rassicurante nei momenti emergenti, nei cosiddetti momenti critici. L'interazione è una appunto riassicurazione e occlusione della coscienza. Quello che è interessante in questo caso è il trattamento della melodia femminile, il registro acuto, questo continuo voce spinta. E questa è stata una caratteristica, per carità, che nella musica contemporanea, moderna e contemporanea, particolarmente nelle punte dell'espressionismo, è diventato quasi una stereotipia. Ma questa di Stravinsky è un'acutezza di registro che deriva proprio da una tradizione vocale dei canti responsoriali russi, non responsoriali, non liturgici, extraliturgici, profani, contadini. E anche qui c'è un villaggio nella memoria. Pure Stravinsky, appunto, come ricordava poc'anzi, lei ha sempre rifiutato questa attribuzione di folclorista. Infatti, a proposito delle nozze, dice: non intendevo ricostruire le nozze contadine ed ero poco preoccupato di problemi etnografici. Esattamente, esattamente. Ecco, riguardo ai rapporti tra colto e popolare, senz'altro la figura di Luciano Berio nella sua totale apertura e disponibilità verso la realtà, forse in generale, risulta estremamente rappresentativa. Con Berio abbiamo registrato questi pochi minuti via telefono e che ora vi facciamo ascoltare. Tra musica popolare e musica colta io non approvo, perché quando c'è la contaminazione c'è un rapporto direi superficiale tra le due dimensioni, e mentre invece l'interesse dei musicisti di oggi è quello proprio di trovare dei rapporti profondi che legano queste due dimensioni, che spesso non sono dimensioni musicali così lontane, ma sono dimensioni di funzione musicale forse lontana. E infatti quando questo avvicinamento avviene in profondità tra musica colta e musica popolare c'è un fatto analitico che è sempre imprescindibile. Infatti senza questa dimensione analitica non si può dire, non si può fare niente. È solo attraverso un processo di analisi che noi possiamo sperare di allargare il nostro universo di conoscenza. Non fermarsi a un livello superficiale, non fermarsi a una visione diciamo arcaica, ma scendere più forse nel cuore del problema e quindi andare forse più verso il primitivo, se vi è questa differenza appunto tra arcaico e primitivo. Sì, noi dicevo di non usare per esempio il fatto popolare o i documenti di folklore come aneddoti, ma sì, cercare di capirli come sono fatti, perché sono così e che funzioni hanno. Sì, non fermarsi alla citazione, ecco quello. Assolutamente, questo sarebbe un grosso sbaglio. Infatti, tra l'altro, ci sono aspetti, come si può dire, collaterali molto affascinanti. Si scopre, per esempio, che certe musiche, che so io, dal Giappone, dell'Africa centrale, anche dalla Sicilia, qualche volta hanno legami profondi con pratiche musicali colte. Io mi sono avvicinato alla musica popolare da sempre, direi, sono sempre stato molto attratto, ma ho scritto un lavoro, si chiama Folk Songs, e l'ho scritto per ragioni direi pratiche al momento, perché Katy Perveri mi aveva pregato di strumentare, di fare un'antologia di canti popolari. Allora l'ho scelto, qualcuno me l'ha suggerito lei, qualcuno l'ho trovato io, qualche altro degli amici me l'hanno cantati, qualche volta su vecchie musiche, su vecchi dischi anche. E poi lavorando a questo mi sono accorto che c'erano delle scop- scoperte abbastanza interessanti da fare tecnicamente. Per esempio, mi sono posto il problema di utilizzare 5 strumenti tipici della nostra cultura: flauto, clarinetto, viola, violoncello e arpa. Ci sono 2 piccole percussioni, ma quelli sono secondari, e con quelli ricreare direi una cornice culturale omogenea col documento originale. Infatti ogni canzone è commentata, c'è una specie di sì, proprio di commento, se vuole anche in senso un po' brechtiano, sì, di straniamento rispetto alla melodia che qualche volta è stata modificata, eccetera. Ma gli strumenti hanno appunto il compito di commentare queste melodie di origine orale, la maggior parte di queste, e creare una cornice culturale, strumentale, che fosse in assoluto rispetto col documento originale. Quindi si passa dall'America, dagli Stati Uniti, all'Azerbaigian, alla Sicilia, alla Sardegna e così via. E mi interessava anche collegare queste 11 canzoni in un arco molto semplice, formale, molto semplice, che fosse in un certo senso un'amplificazione dell'idea di ballata. Quindi c'è un paesaggio, c'è una geografia musicale che varia, ma gli strumenti hanno il compito anche di riunire insieme le cose, oltre che di commentarle in maniera differente ogni volta. Lei ha fatto degli studi particolari sulla musica di questi luoghi? Sì, non approfonditi scientificamente, come potrebbe fare appunto Carpitella, Alan Lomax, o Gian Attasio, eccetera, ma al fatto scientifico spesso è sostituito in me da un interesse musicale quasi a livello emotivo per certe cose, come i canti della Sardegna, le appagnate della Sardegna, che i venditori di strada, le canzoni dei pescatori, eccetera. E ho fatto un'analisi colta, diciamo, di queste cose, sì, per potermene appropriare proprio sinceramente. L'analisi più intensa, più profonda che ho fatto, cioè non l'ho fatta io, l'ha fatta Sim Karam con le telefonie, lui le chiama polifonie, io continuo a chiamarle telefonie, del Centro Africa, che mi sono servite in un altro lavoro, Coro, dove uso molte tecniche popolari, senza citazioni però, uso il processo tecnico che genera queste musiche, questi modi, questi stili, queste situazioni sonore, musicali, sempre diverse. Effettivamente, come non si può essere d'accordo con quello che ha detto Luciano, e cioè che è una presa di coscienza delle procedure che dà un'appropriazione intensa, e la presa di coscienza delle procedure naturalmente attutisce o addirittura elimina questa divisione schematica di colta popolare, che poi è sostanzialmente una cosa che risale alla seconda metà del Settecento fino al Novecento ideologico. E mi ricordo in questo senso che è stato molto interessante. Ai seminari internazionali di etnomusicologia di Siena, un anno ho invitato Luciano Berio, che tra l'altro abita vicino a Siena, e avemmo un seminario molto interessante sulla semiografia, cioè sulla scrittura. Un problema di trascrivere i canti dei salinari siciliani. A un certo punto lui si fermò e disse: guardate, è inutile che vi insistete, vi intestardite su trascrivere questo canto in un pentagramma. Inventatevi una grafia, vi posso anche aiutare a inventare una grafia, perché col pentagramma non ci riuscirete mai. Era proprio la piena coscienza critica, la consapevolezza di qualcosa di intraducibile secondo dei segni tradizionali. Finora abbiamo volutamente tralasciato il nome di Béla Bartók. Siamo ormai in chiusura quasi di trasmissione, ma un cenno almeno a Bartók va fatto. Abbiamo iniziato 3 settimane fa con Diego Carpitella sotto il segno di Bartók, sull'importanza che ebbe Bartók per l'avvio delle ricerche etnomusicologiche sul campo in un'ottica davvero rivoluzionaria per i primi decenni del Novecento. E vorremmo quindi avviarci verso la chiusura di questa trasmissione degli incontri con Diego Carpitella, ancora con Bartók, valutandone in breve tempo l'importanza e la singolare posizione in quella corrente che stiamo appunto definendo come primitivismo musicale. Ecco, nel caso di Bartók la parola primitivismo e fauvismo deve essere doppiamente virgolettato, salvo quella distinzione che per fauvismo e primitivismo si intende tutto quello che in maniera schematica può essere considerato la concezione della cultura appunto euroculta. Di Bartók abbiamo parlato fino alla prima trasmissione a proposito della traduzione degli scritti italiani nella collezione Viola di Einaudi. Bartók, mi ricordo, mi sembra di aver detto quella volta, è uno strutturalista ante litteram. Sì. In lui c'è un assorbimento profondo delle ricerche che lui fece. Vorrei dire che Bartók, naturalmente, appunto, abbiamo detto, col fonografo Edison registrò intorno al 1904-5-6, poi ha avuto qualche altra esperienza, come si dice oggi in gergo, sul terreno, sul campo, ma è stata tutti i problemi della trascrizione che hanno approfondito e interiorizzato questa esperienza. Sicché nelle sue composizioni, sono numerosissime, e c'è una tale assimilazione della Lang di tradizione orale, non soltanto ungherese, ma della Lang, della musica di tradizione orale balcanica, in cui veramente si ha un costruire con una fantasia personale come quella di Bartók, secondo delle strutture assimilate, dove i due elementi di distinzione tra quella che è la fantasia individuale e quella che è la Lang cosiddetta naif, contadina, la distinzione non è possibile. Quindi molte melodie di Bartók, alla fine dei conti, non sono neanche quelle cosiddette originali, sono inventati secondo una struttura profonda. Ecco perché Bartók poi ha, secondo, nelle procedure è di una modernità incontestabile. Poi ci sono questi altri aspetti legati alla situazione culturale sua particolare, certo, che sono storicizzabili. Bartók, c'è una dialettica dei contrasti tra musicista colto e materiali arcaico folclorici, un contrasto che si risolve in una tensione drammatica. Questo. Sì, proprio perché c'è questa assimilazione che per certi versi potremmo dire una assimilazione naturalistica e filologica. Sì. E poi nello stesso tempo c'è una fantasia creatrice che amalgama tutto questo e di cui poi forse ci si può anche dimenticare. È soltanto che storicamente si sa che le sue radici di linguaggio in parte sono quelle, ma poi un linguaggio che non ha appunto neanche nel suo caso niente di folcloristico. È stato anche studiato, sono stati studiati i rapporti che ci sono nella musica di Bartók tra, diremo, natura e cultura. Ah, sì, sì, sistema. Certo. Adesso non scendiamo ovviamente dettagli tecnici, ma il sistema assiale bartocchiano e la sintesi con il sistema tonale che si trova, è presente nelle opere di Bartók, nell'analisi delle opere di Bartók. Certo, sono stati fatti degli studi che poi avevamo un momentino citato un'altra volta, soprattutto nei quartetti. Sì. Nei quartetti questo intrigo tra l'ang di tradizione orale e la parole di un grande poeta sono abbastanza state analizzate. Ascoltiamo un frammento dell'incipit del primo movimento, assai lento, allegro assai, dalla sonata per due pianoforti e percussioni di Béla Bartók. Ecco, con Bartók abbiamo aperto e abbiamo chiuso con Bartók. Veramente ringrazio l'opportunità che mi è stato di mettere in 8 cassette una parte della mia autobiografia. Indubbiamente è stata una maniera per chiarirsi l'idea e poi è stata anche l'occasione per ritrovare degli amici. Ringrazio particolarmente Antologia, tutta la redazione e in particolare Emanuele Pappalardo, che è stato un gentile e sensibile dialogatore e di cui veramente serbero una memoria, proprio un ricordo, proprio per la finezza di aver imbastito. Beh, grazie professore. Io vorrei ringraziare anche tutti gli ospiti che sono intervenuti in questi 4 incontri, da Alberto Cirese a Vittorio Lanternari, Giovanni Gervis, Goffredo Petrassi, Clara Gallini, Lombardi Satriani, Roberto Leidi, Giovanna Marini, Ettore Biocca, Romano Mastro Mattei, Roman Vlad, Paolo Emilio Carapezza, Luciano Berio e Roberto De Simone. Spero di non aver dimenticato nessuno. Un ringraziamento anche alla Discoteca di Stato, che ci ha fornito del prezioso materiale d'ascolto. In particolare ringrazierei per la sua disponibilità Anna Maria Placidi. Grazie ovviamente al professor Carpitella, nella speranza che i nostri sforzi abbiano saputo presentare un ritratto il più possibile completo. Ecco, anche io mi associo a questo ringraziamento al professor Carpitella, che ha voluto inaugurare questo terzo anno di antologia. È stato il primo ritratto di questo 1990. Ricordo ai nostri ascoltatori che Antologia Continua, che il mese di febbraio sarà dedicato allo scrittore Domenico Rea. Carlo D'Amicis sarà il suo intervistatore privilegiato, il suo interlocutore privilegiato. Ringrazio, anche se non dovrei farlo perché siamo tutt'uno, Emanuele Pappalardo, per le stesse ragioni per cui l'ho ringraziato Carpitella, e do appuntamento ai nostri ascoltatori alle 19:25 per il ricordo di Giorgio Caproni, con il quale abbiamo aperto la nostra trasmissione di oggi, dedicandola alla moglierina e ai figli Silvana e Mauro.